Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. No, sono tutto un brivido perché insomma sono concentrato per questa sera. Lo diciamo per quelli che stanno andando tranquillamente a vedersi il derby, che tutto è a posto, tutto è tranquillo. No, non nevica più. Ha smesso di nevicare, ha nevicato per 2 ore e mezza, però adesso tutto smesso, tranquillo, non ci sono più problemi. Nel frattempo il Siena tenta di rovinare la festa alla Juventus con un tiro però alto, tipo non so, 25 metri. Erano ancora a giocare contro il Galles. Esatto, era un po' una palla in touche, diciamo. Sì. Più o meno. Mi è spaventato con quello. Lo so, ma nel frattempo sta del numero 5 per il gol del pareggio. Sì. Vanno tutti a festeggiare il capitano. Non sono Daniele Conti. Sì. Non sono in una camera di Cossu oscura. Sono a Cagliari nel nuovo stadio, ma come dire, abbandonato a se stesso, nel senso che ci sono 22 giocatori in campo, qualcuno seduto sulle panchine e altrettanti seduti sugli spalti. Beh, basta, finito. Su una tribuna. Tra di loro. Nel frattempo Roma. 26esimo, eccolo il colpo di testa. Cerca l'angolo, lo trova, tocca appena Consigli. Gol del 3-2. Eccola qui la conclusione per il primo gol in Serie A del greco ex Olympiacos. Aveva giocato da titolare la sfida con la Juve, questa è la seconda consecutiva. Sentono che sta arrivando il loro momento, quelli della Roma. Sì, infatti ha segnato il gol del 3-2 in questo momento. No, ma non stavo parlando del calcio, stavo parlando di quell'altra cosa, cioè, capito? No? Cerca di seguire attentamente. Sì. No, capito. Non è il calcio cosa. Quello che conta, no, in questo momento a Roma. Cosa. Diciamo quella la finale che ci sono. Quelle robe lì, quella lì è gara internazionale, si gioca infrasettimanale, si parte ci credono i romanisti, ci credono in questo. Vediamo i risultati perché li stanno ascoltando, quelli che ci stanno ascoltando vorrebbero avere almeno un po' di informazione. Tanto ce la sfanghiamo velocemente perché come sapete il Bologna non ha giocato oggi causa neve. Non c'entra, scusa. Invece Atalanta-Roma. Avete appena sentito Toro Zidis che ha segnato il gol del 3-2. Esatto, quello. L'Atalanta era passata in vantaggio con Livaja, poi era la Roma con Marchigno e Pjanic, poi pareggio di Livaja e pochi istanti fa Toro Zidis della Roma 3-2. Basta, finita la Roma. Sono cose che succedono. Sai come si chiama lui? Lui come si chiama? Allora, Adnan, Adel, Aref, Kadumi, Al Shewi. Luca, sai che io non sopporto gli incisi in radiofonia, quindi non si fanno, quindi adesso stai dando i risultati. Esatto. Dai, questi risultati. Andiamo con quello che mi è piaciuto. Esatto. 3-2 Roma sull'Atalanta. Cagliari-Torino abbiamo appena sentito, pochi istanti fa il pareggio di Conti, era passato in vantaggio la Cagliari con Sau su rigore, poi Cerci Stevanovic per il Torino e pochi istanti fa il pareggio di Conti, quindi 2-2. Juventus Siena 1-0, Lichtsteiner, il gol, diciamo, più che gol cercato, gol trovato. Una serie di carambole con il portiere, c'era lì Lichtsteiner che passava. Ma è uguale, vale uguale. No, non so, non che vale uguale. Non però, è che è svalutato, cioè no, tu cerchi di sminuire l'evento. Diciamo, alla fine della partita, Conte non può dire che era uno schema lungamente provato in allenamento. Non l'ha mai detto. E l'ultima partita di oggi, Parma-Catania 2-0 per il Catania, ha segnato Lodi e poi... 2-0 l'ha segnato Sergio Gontan Gagliardo, però tutti lo conoscono come Checo. No, Checo. Adesso non ti piace Checo. No, perché punizione per la Juve a questo momento. Giovinco, gol! Gran gol, raddoppio della Juve. Giovinco, la formica, vieni qua, fratello. E vabbè, sono cose che succedono. Ma ha giocato a Siena, Gioinco? Eh? Ha giocato a Siena, Gioinco? No, no, perché? Perché non gioisce. Non ha gioisce. Fatto solo il pugnetto e basta. Ne ha tentate così tante per buttarla dentro. Finalmente è riuscito a mettere dentro almeno un gol. 2-0 per la Juventus. E così possiamo andare serenamente verso la fine di questa trasmissione. No, beh, anche prima era ben iniziata, sì, effettivamente era ben iniziata. A proposito dei risultati, ecco. Prima divisione della panna a mano danese. Scusa. Otterup davanti di 10 punti, 37 scusa, perché, a 27. Scusa, perché la palla a mano? Cioè, già per primo perché la palla a mano, perché no, danese. Allora, il concetto di palla a mano, il concetto di Danimarca, il concetto di campionato femminile, capisci certo. Che messi insieme mi danno un quadretto che è sì. Un po' più divertente sì, che la Juve che gioca. Cioè, voglio dire, non, come ti dà un quadretto? Meglio della Juve. Otterup 37, Vestimerland 27, sì, mentre in Austria no, la Fruffhaus guida 40... Non fanno solo i biscotti, cioè cosa c'entra la palla a mano con la fanno anche il burro, quello di salato, che non è male. Quindi forse no, vi è sfuggito. Otterup 37, Vestimerland 27. Cos'è la classifica, mentre questa? In Austria il Fünfhaus 44, mentre il Kartner 19. Senti, questa le caramelle gliele hai date tu, quelle no. La prima verdi che se sì. Ne mangiate tutta la scatola. Cosa c'era non lo so cosa c'era dentro. Le erbe c'era scritto. Non voglio saperlo. Comunque capisco perché dai e vai non è solo calcio. Però visto che non è solo calcio, però noi dobbiamo anche riguardare gli grandi eventi e guardiamo ovviamente al derby. SMS, potete mandare il vostro pronostico al 349-238-6666. 349-238-6666. Stiamo parlando di Inter Milan, stiamo parlando di questa sera, stiamo parlando di una partita senza neve. Sì, spero. No, allora, cioè, qua non nevica, lo diciamo qua davanti alla oggi pomeriggio noi come... siamo abbastanza vicini. Esatto, siamo abbastanza, siamo a circa un chilometro da là. Il Siena stava per mettere dentro la biglia di testa. Ma chi se ne è Megara, tra l'altro, sì. È Megara che adesso ha tirato un calcio all'erba, tutto sì. Arrabbiatissimo, stava per segnare. Buffon è superato, ha preso la traversa, è venuto il momento di Chiellini. Chiello rientra in campo, il gladiatore viene tra noi e finalmente sì. Abbiamo una difesa come si deve, no? Attenzione però, stava esatto. Proprio per mettere esatto, la pera infatti. Però il Siena in questo momento. Peccato, vabbè, dicevamo? Dicevamo che Megara stava mettendo la pera, che questa sera ci sarà il derby Inter-Milan che si giocherà sicuramente perché non nevica, nevicato per parte del pomeriggio, comunque c'erano i teloni, a San Siro ha messo il sale per fuori sul piazzale, ha messo il sale sulle tribune, tutto tranquillo, il derby si giocherà e Cagliari-Torino è sempre 2-2. Well, I wanna tell you about ritmo un po' questa cosa, cioè, scalda un po' gli animi in una giornata abbastanza fredda e anche piuttosto, come dire, umida. Vi ricordiamo però 349 238 6666 per il pronostico di questa sera. Il derby lo sapete, lo conoscete, sono tutte e due squadre che hanno dato tanta gioia ai loro tifosi. Quanta? Tanta, mm-hmm. Abbastanza insomma, sì. Chi più chi meno, però hanno dato tanta gioia ai loro tifosi, in particolare in Europa, chi più chi meno in Italia, insomma, da questo punto di vista. Noi ne parliamo ovviamente non soltanto del derby di questa sera, ma di questo campionato che non è ancora finito. Che, no, che oggi, è finito, oggi è no, finito, oggi è finito, cioè, cosa? Non è finito. La, cioè, guarda, adesso, la Juventus sta vincendo, figurati. Sta travolgendo il sì. Siena, che era la squadra più in forma sì. Del momento. No, dove no? Allora, Luca, non sei tu quello con cui voglio sì, parlarne. Okay, diciamo che volevo parlare con il nostro mister Alberto Cavasin. Pronto, mister? Buonasera. È un piacere risentirla, come sta? Altrettanto, grazie, bene. Nevica, mister? No, qui no, qui c'è un cielo sereno, sono a Treviso e freddo fuori, però il tempo è buono. Vabbè, tutto bene, insomma, tranquillo. Cioè. Sta guardando la partita? Cosa sta guardando? Sto guardando la Juve. La Juve, eh? Ha visto Megara, che colpo di testa che ha messo lì, stava per metterla. Che peperino, eccolo lì, eccolo lì. Ci ha pensato Buffon. Senta, ma com'è possibile che un calciatore come Megara, che era riserva in Francia, improvvisamente arriva in Italia, inizia a fare 4 gol in 3 partite, cioè, com'è possibile che non sia stato scoperto prima? Un giocatore le qualità le ha. Sì, beh, un giocatore che è nel giro della nazionale svizzera, quindi un giocatore che si conosceva, diciamo, no? Quindi sì. Era no, Luca che non lo conosceva, noi sì, lo conoscevamo, certo. No, io non lo conoscevo. Ah, non lo conoscevo. No, però non lo conoscevo per averlo visto giocare. Però è un giocatore che c'ha un curriculum di questo tipo, quindi... Beh, un bel peperino, no? Quel momento, sì, beh, qui sta facendo molto bene. Un roccioso, cioè, in questo caso. Peperino è di sostanza, è un giocatore che fa punto di riferimento su un gioco d'attacco di tre attaccanti. Rapido, veloce, potente, più che rapido, veloce, e poi fa gol, tira in porta. Campionato finito? No, sì, no. No. Cioè, è lungo, no? Questa cosa. Dovesse esserci la vittoria della Juve la prossima settimana, allora potremmo dire forse campionato finito, ma vedendo il risultato di domani con l'Udinese del Napoli, poi c'è la partita, c'è subito dopo un bel match. Napoli-Juve. E infatti. Però quindi... sono 7 punti di vantaggio in questo momento, bisogna vedere cosa fa il Napoli a Udine, perché Udine è campo ostico. Sì, è una partita difficile per il Napoli. L'Udinese è squadra di valore. Ma non ha fatto sempre risultato però il Napoli su a Udine? Spesso. Mi ricordavo delle cose strane, dei risultati un po' anche abbastanza decenti per il Napoli. Però insomma, comunque le dice non è ancora finito il campionato e quindi qualcosa accadrà probabilmente. Nel frattempo mi sembra che sia fatto male Giovinco prima, ho visto che chiedeva un po' di assistenza, mentre invece è espulso. C'è un'espulsione di finisce giù ancora il fallo di Ogbonna. Giornata da dimenticare per il centrale del Torino che domenica scorsa era rientrato dopo lo stop per... E che c'è qualcuno che ce l'ha anche al fantacalcio, tra l'altro, Bon. Scusi, mister, ma tra i mister, lo dica così, no? Cioè, magari poi non lo diciamo in giro, giocate a fantacalcio ogni tanto? No, non ho mai sentito neanche tra i miei colleghi. No. Io non ci ho mai... non ci ho mai pensato. No, non ho mai giocato. No, non mi sembra che sia una cosa che... Che prenda per gli allenatori. Senta, invece ma c'è un rigore, attenzione, un rigore per il Cagliari, sì. Espulso Bonna, rigore per il Cagliari, 2-2, 41esimo, rigore per il Cagliari, si mette Piniglia sul dischetto che gli ultimi 5 rigori, 4 gli ha segnati, uno gli è stato parato, è a circa 4-5 metri dalla palla, ecco l'arbitro. Lo seguiamo insieme, mister. Sto guardando. Si sente dire dai giocatori del Torino. Il fischio di Peruzzo, parte Piniglia! Ah, perché non l'avevo visto, non ho fatto l'inquadratura, era un po' così, si è un po' distratto anche il cameraman in questo caso. Comunque c'è festa, c'è festa, c'è gioia, soprattutto sono loro soltanto che stanno urlando in questo caso, perché non c'è nessuno in quella situazione, cioè dentro lo stadio. Lo stadio di Sarena, sì. È abbastanza incresciosa la situazione lì del Cagliari con lo stadio, giusto, mister? È un po' così, eh? Sì, è una cosa poi... Non è bello, non è piacevole giocare, poi questa è una cosa che porta anche altri problemi, non è solo in mancanza di tifosi alla domenica, penso che ci sia una turbativa non indifferente in questo momento purtroppo nella società del Cagliari, e questo sta facendo un po' bene verso i risultati della squadra, perché ha vinto a Pescara, oggi sta vincendo, quindi la squadra si è ricompattata in queste situazioni, e quando il gruppo è buono, succede, tante volte succede anche così, quando invece ci sono magari dei problemi anche all'interno a livello tecnico, le turbative fuori sono... Situazione veramente incresciosa da parte di Legrottaglie, che ha spinto l'arbitro e poi dopo ha cercato di bloccargli anche il braccio mentre stava tirando fuori il rosso. No, il giallo e poi quindi è stato espulso. A quel punto gli hanno tirato fuori direttamente il rosso. Anche senza perché il Parma ha segnato il gol del 2-1 pochi istanti fa con Amauri, che ha ricevuto una palla in mezzo all'area, era praticamente da solo, ha fatto in tempo a girarsi e a infilarla a fil di palo. Quindi Catania 2, Parma 1, però Catania in 10 perché è stato espulso Amauri, che ha messo le mani addosso all'arbitro. Letteralmente Legrottaglie, è vero. Legrottaglie che ha messo le mani addosso l'arbitro, poi testualmente si proprio l'ha spinto, proprio è un po' imbarazzante. Dai e vai, non è solo calcio. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air, up ahead in the distance I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. And she lit up the candle and she showed me the way. Dai, vai. 824-0024 oppure gli sms al 349-238-6666. Siamo con il mister Cavasin e tra l'altro arrivano anche delle domande direttamente tramite sms, ma sono domande ovviamente che in qualche modo ci portano a un tema che volevamo comunque trattare, cioè Messi è paragonabile a Maradona. Si sta sulla notizia, Messi sostanzialmente ha fatto una figuraccia a Milano, si è subito ripreso però poi in Spagna. Maradona arriva lunedì, mi pare, domenica sì. Lunedì per fare una trasmissione. Maradona dovrebbe arrivare in Italia. Mister Cavasin, paragonabile Messi a Maradona? Questo è un messaggio che ci è arrivato sul... Ma lo paragonano, siamo un po' portati tutti a paragonarlo. Io ho marcato Maradona, non ho marcato Messi da giocatore. E Maradona era una cosa... non si può raccontare da quanto forte... da quanto dimostrava di essere baciato da qualcosa di divino. Messi è un altrettanto giocatore, al di là della prestazione dell'altra sera che praticamente non ha disputato, però mi sembra un giocatore leggermente inferiore da quello che poteva essere Maradona. Se Maradona giocasse oggi con il regolamento che c'è oggi sarebbe veramente una stella inconfondibile. Senta, ma lei dice che è inferiore, intanto c'è un rigore anche per il Torino, una partita dei rigori. Ma sentiamo cosa succede. Il fischio dell'arbitro. Gol Bianchi, 3-3 quindi Cagliari-Torino. Quindi secondo lei, quindi, che ha marcato Maradona, cioè ha marcato nel senso come era andata poi, detto fra di noi, l'ha marcato? No, non riuscivo a marcarlo, praticamente immarcabile. Cioè andava via veloce, era troppo veloce, gli nascondeva la palla. In qualsiasi posizione che uno si poneva, se si poneva troppo vicino lui riusciva a girarsi e creava un pericolo. Se non marcavi a mezzo metro si girava e ti puntava ed era peggio, faceva male. Bisogna anticiparlo, si dice così. Se lo anticipavi non riuscivi perché lui si spostava e si faceva dare la palla da un'altra parte. Ricordiamoci la marcatura di Gentile ai esatto, mondiali, esatto. Con maglie rotte, e quello era un giocatore veramente coi piedi tecnicamente molto forte, ma una grande forza ce l'aveva nel fisico. Nel fisico, la destrezza che aveva, la capacità di girarsi destra e sinistra, era incontenibile. Quindi se bisogna fare una classifica Maradona in questo caso, lei ha vissuto male quella situazione di Maradona, tra l'altro palo del Siena e tra l'altro Buffon battuto con palla che gli passa dietro la schiena rischiando di un rimbalzo per farla entrare dentro, invece no, grande fortuna della Juventus, ma è così che si vincono i campionati. Luca, la Sampdoria lascia stare, stiamo parlando di un tema che non ti addice. Senta mister, visto che stiamo tornati a parlare di campionato, abbiamo visto la testa anche in coda, è già secondo lei già deciso? Cioè Pescara, Siena, Palermo. Siena sta perdendo, Pescara giocherà contro la Lazio, il Palermo ha pareggiato solo col Genoa ieri sera, ci sono 5-6 punti di distacco dalla quart'ultima, è già deciso? Sono tanti 5-6 punti in questo momento del campionato, perché fare le rimonte in Serie A non è sicuramente facile. E lei ne sa qualcosa purtroppo, ahimè. Sì. No, io sì, esatto, molto. E c'è un terzo gol intanto, in questo momento è Drogba? Pogba della Juventus ha messo la terza biglia per la Juve, 45esimo, 3-0 Juve su Siena. Vabbè, campionato finito, dai, via, finito. Ma smettila! Quindi, no, sono le tre squadre che sono indietro, hanno già dimostrato di essere leggermente inferiori a quelle davanti, quindi hanno pochissime possibilità di rimonta. Ecco, c'è un altro gol del Cagliari intanto, proprio quello che dicevamo prima, cioè come reagisce il Cagliari di fronte a quello che sta accadendo in questo momento, la solitudine all'interno dello stadio, il presidente in carcere, situazione abbastanza tesa all'interno, però loro reagiscono compatti. E chi è che reagisce se non il capitano? È lui, un tiro da fuori, vabbè, un colpo di fortuna, diciamo così, clamoroso. No, spieghiamolo. Tiro da fuori indirizzato sul palo alla sinistra, invece viene deviato da Stevanovic al limite dell'area e finisce alla destra, e Glick non può farci niente perché stava andando dall'altra parte. Allora andiamo ovviamente su quello che accadrà questa sera e parliamo di queste due squadre, Inter e parliamo del Milan. Due squadre che il derby sfugge sempre ad ogni pronostico, questa è una frase che ho già sentito. Questa è bella, questa è nuova. Ma l'abbiamo già anche estratto, scritta sul muro, noi già da tempo questa. Sì, ce n'è anche un'altra, quella che dice che la squadra che non è favorita solitamente. Esatto, vince. Questa l'abbiamo poi cancellata perché dà fastidio. Aspettavo che la dicesse, però questa regola qua non vale per il derby di Torino, vale per tutti i derby meno quello di Torino, in cui la squadra sfavorita non vince mai. Sì, cioè vabbè, Torino. Due squadre da trattare, ma non è vero, la squadra di Torino ha vinto, ci sono dei momenti in cui vinceva, poi perdeva sempre ovviamente lo scudetto, però vinceva sempre. Comunque allora, che cosa è successo? Che cosa succederà stasera? Pronostico. Tra l'altro lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, 800-24-0024, se vogliono telefonare, oppure 349-238-6666. Allora, cosa succederà? Mister? Non succederà una partita dove, secondo il mio punto di vista, qualche giocatore potrà deciderla. E quindi Balotelli, Cassano... farà la differenza qualche interpretazione personale, qualche colpo importante. Le due squadre in questo momento si equivalgono, non possiamo dire prima della partita che ci sia la squadra che sta meglio. Io penso di sì, quindi sarà una partita dove qualcuno tirerà fuori un colpo importante e si farà la differenza. Sarà un bello spettacolo. Quindi mister, lei sta dicendo non è che basta un Balotelli per cambiare una squadra, cioè si equivalgono tutte e due insomma alla fine della fiera. No, io ho detto che un giocatore importante con un colpo importante farà la differenza. Ah. Quindi la differenza la farà quel giocatore che in questa serata sarà campione. Quindi lei non, insomma, questo grande recupero fino a poco tempo fa, Allegri c'era una panchina che vacillava, poi di colpo in poco tempo, in poche partite è diventato l'astro nascente, il futuro del Milan, non andrà via mai più e cose di questo genere, tutto dovuto a che cosa? Anche perché tra l'altro la partita contro il Barcellona l'ha fatto senza Balotelli ed è riuscito a vincerla, quindi in questo caso no? Ma questo è dovuto al lavoro dell'allenatore e a una società che l'ha lasciato a lavorare e che l'ha aiutato nel suo lavoro, assecondandolo, appoggiandolo e aiutando i giocatori a restare con l'allenatore senza creare turbative importanti dietro, e quindi il frutto del lavoro dell'allenatore ha portato sì che questa squadra si riprendesse. Poi qualche innesto importante, vedi anche Balotelli, ha fatto sì che la squadra migliorasse e facesse questa rimonta. Cioè Balotelli, qualche innesto, cioè Balotelli è stato l'unico innesto decente, no? Sì, Balotelli e la crescita l'inserimento di Niang, che è stato importante, poi adesso si è recuperato Boateng, quindi il lavoro, il recupero, ma la costanza di poter far sfruttare il lavoro dell'allenatore, quello che solitamente in tante piazze in certi momenti non si fa. L'allenatore si rende conto di quando la società ha dei dubbi, anche all'interno dello spogliatoio, cioè anche i giocatori reagiscono in modo diverso quando si rendono conto che questo rapporto società-allenatore non è così solido? Sì, lo sentono subito, è la cosa che sentono prima, la sentono prima loro dell'allenatore, perché l'allenatore è una forza interiore data dal lavoro che lui non ha tanti problemi sotto questo punto di vista, però la reazione più importante è quella dei giocatori, perché non si può pretendere che i giocatori siano tutti con l'allenatore o si sentano stimolati nel momento in cui le cose vanno male. Si ricompattano con l'allenatore se la società fa sentire la fiducia verso l'allenatore. Pronostico secco per questa sera? Io sono milanista. Quindi vittoria del Milan. Ma dai! Quanto? Ma non è scaramantico quindi? 2-1. Perfetto. Grazie mister Cavasini, a presto! Arrivederci, grazie a voi. Salve, salve. 800 24 0024 per telefonare qui direttamente e dare il vostro pronostico, oppure scrivete al 349 238 6666. Non è scaramantico, eh? No, hai no, visto? Infatti io ce la fai a dare risultati? Sì, l'Atalanta. Hai 30 secondi. Sì, l'Atalanta ha perso con la Roma 3-2. Vabbè, Cagliari, frega, Cagliari-Torino 4-3. Juventus-Siena 2-0. Catania-Parma 2-1. Ha già finito? Mi hai detto 30 secondi, ne ho usati meno. Vabbè, c'è qualcuno che fantacalcio può gioire in qualche modo? Chi ha Conti, perché ha fatto una doppietta, poi anche chi ha Livaia, ma saranno in pochi perché bisogna puntarci sui giovani. Io non mi chiamo Tiro, però I'm about to take it to the puente. Cause I'm in a Boricua state of mente. So pump your hands for the roof, oh, and let me do my thing. I'm chilling, come on, building, I'm gonna be no singer thing. And mi viejo South Bronx, yeah, yeah. Que viva Puerto Rico, que viva. Frega, scusa, viva Puerto Rico, cosa ti dà fastidio? No, viva no, Puerto Rico, ma secondo me, viva Alaska va bene, invece sì, Alaska, sì. Viva Alaska va bene, ma Puerto anche Rico, California va bene, certo, non è che c'hanno un ritmo nell'Alaska, anche Massachusetts, gli Inuit, il ritmo Inuit dell'Alaska, hai capito, cioè, sai che roba, no? Cioè, sai, un po' di affinità anche col clima che c'è in questo periodo, mi sembra di essere in Alaska più che a Puerto Rico in questi giorni, però il desiderio è quello che conta, cioè, no? Sì. Voglio dire, un po' di sole, magari realizzarlo ogni tanto sto desiderio, guarda che a Cagliari c'era il sole. Oggi sì. Abbastanza increscioso le immagini che arrivavano da Bergamo e poi dopo su innevata con neve che continuava a calare e poi di botto andavano su Cagliari dove c'era il sole, insomma, vabbè, comunque chissà che tempo faceva a Cordigliano. Ah, piove Cordigliano, pioveva oggi, pioveva freddo un sei po' sicuro di secondo me, guarda lì non piove, ci sarà un motivo per cui l'ha scelto quel luogo lì, no? Cioè, non lo so sinceramente, allora, me lo sto chiedendo come Luca, mai Luca, abbia scelto adesso, scusa, Cancellare, adesso mi dici un attimo. Cordigliano, sì. Tempo di Cordigliano in questo momento. Ma secondo me c'è nevischio. No, sopra i 47 abitanti di Cordigliano c'è del nevischio. Vabbè, c'è neve, tu dici. Sì, neve, in questo, neve. Secondo me no, perché a 400 metri, cos'è quell'altezza? Il Cordigliano. Sì, 395. Una roba simile. Non lo so, comunque in Umbria, perché ci stiamo concentrando su Cordigliano? Ve lo diremo tra poco, dopo aver detto 800 24 0024 per darci i pronostici e i commenti su quello che accadrà questa sera, perché questa sera c'è il derby. Mi dispiace per quello che ci diceva appunto la nostra che pippa sto derby, ci diceva Gino, mi pare. Sì, Gino. Sì, è Gino. Solo perché siete una radio milanese non lucana. Se ci fosse un derby in Lucania, noi seguiremo, cioè, il derby lucano. Potenza Matera. Matera. Sì, guarda che quando giocano Potenza Matera è un derby molto caldo. Non . Giocano mai. No, giocano. Ma non giocano mai insieme. Da una parte o dall'altra. Okay. Sono d'accordo anch'io, diciamo, questo è stucchevole, questa attenzione verso il derby milanese, avrei preferito quello torinese, però vabbè, che ci dobbiamo fare. Seguiamo anche questo, ma seguiamo anche Cordigliano. Noi facciamo un appello in questo momento all'800, cioè sarebbe 800 24 0024 800 24 0024, un appello agli abitanti di Cordigliano, perché noi ce ne basta uno dei 47. Sono 47, sì, una base d'ascolto ampia, sperare che ci telefoni, sì, adesso non vabbè, è che senti, cioè, allarghiamo Cordigliano e zone limitrofe, sì, mi anche, tengo largo. Anche perché secondo me lo conoscono anche l'intorno, cioè, abbiamo dei paesini l'intorno, vabbè, sì. Cordigliano, dove tra l'altro abita, ha preso, non so se ha preso la residenza, però avrà preso una residenza. Non lo so. Sì. Il famoso sceicco arabo Adnan Adel Aref Al-Kadumi Al-Shtewi. Non l'hai detto bene. Lo so, però. Allora, Adnan Adel Aref Al-Kadumi Al-Shtewi, che sarebbe lo sceicco che dovrebbe entrare a prendere una parte della società a Roma Calcio. No, una parte, bel 20, sì, mi pare. No? Sì, un quantitativo delle azioni particolarmente cospicuo. E pare che la Procura di Roma voglia aprire un fascicolo per capire se questa operazione proposta dallo sceicco Kadumi sia un'operazione legittima, anche perché a quanto pare le oscillazioni del titolo in borsa sono state particolarmente sensibili. Oscillazioni della Roma. Sì, la Roma è quotata in borsa, quindi ci potrebbe essere turbativa di mercato. Lui dovrebbe investire dai 40 ai 50 milioni di euro. Così. Che magari ce li come Bruscolini, ci ha messi lì così. Qual è il problema? Il problema è che vive a Cordigliano? La domanda che uno si pone. Negli ultimi anni abbia vissuto a Cordigliano in un bilocale con la sua compagna, Sì. No, bene, adesso, tutto non, bene. Non cioè, entra nel merito del rapporto tra la signorina e quello che No, non dico niente. Niente. Praticamente viveva in questo bilocale a Cordigliano, un paesino a 8 km da Perugia, 47 abitanti. In quel 47 c'è anche lo sceicco oppure lo consideriamo il 48esimo? Non lo so, non ho idea. Però, va bene. Però telefonateci voi di Cordigliano per capire se com'è. Cioè, voi l'avete incontrato per stare. Andrà dal verduriere? No, a comprare la cicoria, il carciofo, poi, l'acqua minerale, queste cose normali, al supermercatino, insomma, l'avete incrociato, voi che l'avete incrociato, parliamone in questo caso, però dobbiamo parlare anche dei risultati di oggi con particolare attenzione. Vuoi sentire Barzagli nel frattempo? Sì, ti interessa? Vediamo Barzagli. Questa è una sfida che sentivate in modo particolare, no? Era importante vincere in vista di Napoli. Cosa stai dicendo? Sì, era importante stare davanti, sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile, lo è stato, perché il Siena è molto organizzato, siamo stati bravi il primo tempo a sbloccare, il secondo tempo abbiamo un pochino sofferto, potevamo evitare meno. Ok, Barzi, mi hai convinto, il Siena è realizzato, però nel frattempo diamo anche dei risultati e diamo anche eventualmente qualche segnale a tutti i nostri simpatici amici del fantacalcio. Colpo di scena nel frattempo, lo Zimbabwe mette a segno il 166esimo punto contro West Indies. Cricket. Di cosa stiamo parlando? Cricket, bravissimo. Hai visto? Non è che stiamo facendo la gara, fagli dare la notizia. L'India, cioè, invece, dopo 3 giorni di gara, è riuscita a battere l'Australia. Scusa, dopo quando? 3 giorni. Ah. 515 a 380. Ora possiamo passare ai risultati un po' meno importanti. Prima o no? poi. 3 giorni di gara. Prima o poi qualcuno ci spiegherà le regole del cricket. Sì, sì, vabbè. Diciamo, entro la fine di questa stagione di Dai e Vai, uno dei nostri obiettivi è spiegare le regole del cricket. Intanto dovevamo dare i risultati e dare qualche informazione di fantacalcio. Poi c'è anche la classifica. La Roma ha vinto 3-2 contro l'Atalanta, con doppietta di Livaia. Per quanto riguarda l'Atalanta c'è un assist di Bonaventura. Nella Roma hanno segnato Marchinho, Pjanic e Torosidis. È stato espulso nell'Atalanta Contini, quindi c'è un'espulsione di Contini proprio in extremis. Poi Cagliari-Torino 4-3, chissà se fanno il DVD a Cagliari, l'Unione Sarda oppure la Nuova Sardegna fanno il DVD, cioè diventerà una delle partite storiche del Cagliari. Cagliari-Torino 4-3, gol su rigore di Sau e Piniglia e doppietta di Conti. Per quanto riguarda il Cagliari, su uno dei gol di Conti c'è un assist di Kossu, perché c'è stato un cross dalla sinistra, poi Conti l'ha infilata. Nel Torino i gol sono di Cercico, assist di Darmian, Stevanovic e rigore di Bianchi. Anche in questo caso un'espulsione, quella di Ogbonna nel Torino, che ha terminato quindi la partita in 10. Juventus-Siena 3-0. I tre gol sono di Lichtsteiner, Giovinco e Pogba. Diciamo una delle prestazioni peggiori della stagione per quanto riguarda Vucinic, che è uscito sconsolato. Veramente imbarazzante, lo dico con cuore bianconero affranto, perché è veramente supponente. Sapete quelle partite che faceva spesso la Roma, che così gioco voglia. Non gioco. Oggi non c'aveva voglia. Ma il Siena, ma poi ci sono poche telecamere se gioco contro il Siena, cioè quelle cose un po' così. Non c'aveva voglia, gli faceva male il tendine. Gli portavano via a continuazione la palla. Vabbè, comunque niente. 3-0 della Juventus sul Siena. Invece Catania-Parma è finito. Attenzione a questo Catania, attenzione. Attenzione a questo Catania. Chi lo sta dicendo? A tutti. Attenzione a questo Catania. Sampdoria, attenzione a questo Catania. Parma-Catania, quindi 1-2, i gol di Lodi e Checo per quanto riguarda il Catania, Amauri su assist di Biabiani. Per quanto riguarda il Parma, espulso Le Grottaglie nel Catania. Con questo abbiamo finito. Beh, abbiamo come abbiamo finito? Dobbiamo dare la classifica. Certo, no, per i risultati abbiamo finito. Voglio dire, riesci a darmi una classifica? No, 18 gol in 4 partite. 18 gol in 4 partite. La classifica, Juventus 58 punti. Sì. Napoli 51. Poi ci sono Lazio e Milan a 44 punti. A meno un punto 43 l'Inter. Attenzione a questo Catania che ha raggiunto la Fiorentina a 42 punti. Cioè il Catania, non capisco perché la Lazio potrebbe andare in Champions. Ma fai l'inciso. No, è perché la Lazio potrebbe andare in Champions e il Catania no. A due punti dal l'inciso Lazio. Adesso, vabbè, Fiorentina-Catania 42 punti. Roma 40. Udinese 36. A 32 la coppiata Sampdoria-Parma. Ripeti la coppiata? Sampdoria, Parma. Torino a 31 con il Cagliari. Chievo 29. Atalanta 27. A 26 il Bologna e poi Genoa. E poi inizia la zona purtroppo della Serie B con Pescara e Siena 21. Chiude il Palermo a 20 punti. Sai, io non vorrei tagliare mai questo pezzo, eh? Cioè, beh, comunque per questa notizia dobbiamo darlo, insomma, vediamo questa notizia, dai. La notizia è che il commissario tecnico della nazionale italiana lascia il Fenerbahce, Pjanicjani, ma il commissario tecnico Simone Pjanicjani era allenatore anche della squadra turca del Fenerbahce, una delle squadre più forti nel panorama europeo, ha detto che ha annunciato che l'ha lasciata per motivi personali. Tra l'altro giovedì sarebbe dovuto tornare in quel di Siena per affrontare la squadra di Siena proprio in una partita. Ha ringraziato per l'esperienza trascorsa in questi mesi in uno dei club più prestigiosi d'Europa, poi ha detto semplicemente per motivi personali, però resta commissario tecnico della nazionale italiana. Comunque Pjanicjani lascia il Fenerbahce. Parliamo di cose importanti, di cose internazionali, no? Cioè, quindi sì. Hockey su ghiaccio, al secondo minuto del secondo periodo del massimo campionato tedesco, Mannheim pareggia 1-1 con l'Iselhorn. Bene, questo è internazionale. Scusa, mi hai fatto creare la depressione adesso con questa notizia, No, parliamo di cose serie e tu ci butti direttamente così su questo fronte, mentre invece andiamo a parlare di regole. Sì, di International Board, perché sabato prossimo ci sarà la riunione dell'International Board, che è quell'organismo della Federazione Internazionale di Football, del calcio, che si occupa di modificare le regole del calcio, di trasformare quella che qualche anno fa ha introdotto la regola del divieto del passaggio, del retropassaggio al portiere, certo, tanto per dirvi, certo. E beh, ovviamente ne ha introdotte anche altre, sì, ne ha introdotte molte quelle. Altre, però una delle, certo, delle più rivoluzionarie degli ultimi anni è stata sicuramente quella. Ecco, sabato prossimo si affronteranno tutta una serie di modifiche regolamentari, tra cui appunto fuorigioco, gol fantasma, eccetera. Di bene quali sono cosa affronteranno, allora, in questo caso? Una di queste è la decisione se quale sistema scegliere fra l'occhio di falco e il gol ref per quanto riguarda la determinazione del gol fantasma, cioè l'utilizzo di una tecnologia per stabilire se la palla entra o non entra in porta. Poi bisognerà decidere se disporre gli arbitri di porta in tutti i campionati al massimo livello. Bisognerà prendere una decisione per quanto riguarda il velo per le giocatrici musulmane che chiedono di giocare con il capo coperto. E poi bisognerà anche decidere se il board si dovrà riunire una volta ogni due anni o una volta ogni anno, al di là del fatto che già l'anno prossimo, nel 2014, è prevista una riunione a Zurigo. Ecco, ne parliamo. Parliamo però con un mister molto importante, un mister internazionale, mister Massimo Busacca. Pronto? Buonasera a tutti, buonasera. Come va? Tutto bene? Tutto bene, ecco, grazie. Ecco. Voi? Sì, abbastanza. Lì c'è neve da quelle parti? Sì, sta nevicando oggi a Zurigo, nevica. Bisognerebbe trovare una regola su questo, è quando giocare e quando non giocare sulla neve la prima cosa. Ma lei si gioca, no? Nevica. Ci gioca comunque da voi, no? Qui si gioca sempre, ormai siamo pronti a... Sì, vedete, i tacchetti chiodati. Ci tenevo subito a ribadire quello che state dicendo un attimino sugli ultimi cambiamenti, sì, avvenuti negli ultimi anni. Io penso che uno dei cambiamenti più importanti e secolare è quello dell'anno scorso, che comunque è la venuta della tecnologia appunto per decidere se una palla ha oltrepassato la linea di porta completamente o no. Per cui questa decisione dell'anno scorso è veramente nel calcio una decisione molto molto importante, direi secolare, ecco. Certo, però diciamo la vera e propria introduzione dovrebbe arrivare sabato, perché quelli là erano tutti test, giusto? No, bisogna dire un'altra cosa importante, che abbiamo già fatto il test ufficiale in Giappone al Club World Cup l'anno scorso in dicembre, con diciamo i due sistemi che ha accennato prima lei, sì, con il ref, che sarebbe questo su dei sensori, con i sensori, questo magnete, e l'altro il Lokai, per ricordare, ecco, quello che usano oggi nel tennis. Per cui i due sistemi sono già stati utilizzati in Giappone l'anno scorso con buoni risultati, anche se poi un'occasione vera per poter vedere se questo sistema funzionasse o meno non l'abbiamo avuto, però diciamo che l'esperienza, certo, di arbitro è stata molto positiva. Cioè non ci sono stati episodi contrastati, quindi non si è riuscita a determinare l'effettivo funzionamento, oppure ci sono stati gli episodi in quell'occasione? Beh, sai, l'episodio per vedere se il sistema funzionava bene oppure no è stato quando ci sono stati dei gol, per cui l'orologio ha segnato perfettamente che la palla aveva oltrepassato la linea. Chiaramente questa palla aveva oltrepassato completamente la linea e non un caso di dubbio, però l'orologio ha sempre segnalato in modo perfetto, diciamo, quando la palla aveva oltrepassato questa linea. Purtroppo non abbiamo avuto il caso di dubbio sì o no col centimetro, per cui è un po' questo il peccato. Mister, quindi la tecnologia comunque in questo caso ormai serve, aiuta perlomeno? anche negli ultimi, nelle ultime partite anche importanti che abbiamo avuto ultimamente, anche così in grosse competizioni come la Champions League, abbiamo visto come l'occhio umano sulla linea di porta, quando si tratta di vedere un centimetro o due, diventa molto difficile. Poi è vero che un centimetro o due durante una stagione, una partita, lo puoi vedere, puoi avere situazioni una o due volte solo, però se quella è la partita veramente importante che può decidere un campionato, o ricordando poi in Sudafrica come una squadra può essere eliminata per una situazione del genere, è chiaro che poi dici facciamo qualcosa, perché in fondo un errore del genere può compromettere veramente le sorti di una squadra o di un giocatore in una competizione. Ecco, però cambia un po' la situazione, no? Cioè, ovviamente qua tutti quanti stanno pensando alla Moviola prima o poi, no? In questo caso. Lì c'è il grande dibattito. Esatto. Sì, il problema è questo, perché chiaramente abbiamo visto che la tecnologia può funzionare anche in tanti altri sport, l'abbiamo in America, viene utilizzata per il football americano, nell'ice hockey l'abbiamo, nel tennis l'abbiamo, per cui beh, c'è anche nel rugby, cioè sono tanti le discipline. Come mai il calcio è così restio? Cioè siete voi gli arbitri oppure... Perché effettivamente nelle altre discipline non è che viene sminuita la figura dell'arbitro. In molte discipline, no, come ad esempio nel rugby, l'arbitro viene addirittura rivalutato in questa sua figura. Sì, ma io penso che comunque il calcio è uno sport a sé, con tanta pressione, tanti interessi, tanti soldi. Per cui ecco, penso che il primo problema da affrontare sia un po' questo. E il discorso della tecnologia è che abbiamo visto che funziona, per cui abbiamo avuto situazioni anche in passato dove la palla è entrata o non è entrata, e con una telecamera la possiamo vedere perfettamente. Poi però cosa succede? Che magari qualche secondo prima c'è stata un'infrazione, un fallo di mano oppure un fuorigioco, per cui uno dice ah, ma vedi, però sulla linea di porta abbiamo visto che era gol non gol, perché non andiamo a rivedere però che due secondi prima bisognava fermare questa azione per un fallo o non fallo? Per cui la paura è un po' questa, che la tecnologia possa prendere poi il sopravvento nel calcio quando poi un arbitro decide in una situazione dove era un fallo causato, era perché un fallo poi si provocato. Va sempre indietro fino al calcio d'inizio, alla fine della fiera, poi, no? Per vedere sempre se c'è. Il problema è questo, il mio pensiero è un po' questo, che poi con i tanti interessi non ci fermiamo semplicemente a vedere se una palla ha oltrepassato la linea, ma poi vogliamo vedere magari anche di più, se era rigore, non era rigore, c'era il fallo di mano, non c'era il fallo di mano, perché tutto avviene nella medesimazione. Però una delle grandi momenti tecnologici è stato quando hanno cominciato a mettervi il microfono e voi avete cominciato a parlare tra di voi arbitri in questo modo, no? Qualche cosa lì è già servito, no? Beh sì, assolutamente, un tema anche che si tratterà ancora settimana prossima in Scozia, anche uno di questi, l'uso della tecnologia anche in campo per i giocatori, per vedere non solo ecco per il parlare come facciamo noi, ma per poter vedere anche le loro performance durante la partita, per cui la tecnologia oggi hanno capito tutti che serve in una partita, serve a comunicare, serve a capire se un giocatore sta facendo bene oppure no, se il suo cuore funziona. Sono tante le situazioni dove la tecnologia può essere ben utilizzata. Ecco, il problema tempo è quando se ne fa un uso eccessivo, ecco un po' questo. Tempo fa era in occasione degli europei in Austria e Svizzera, è stato fatto un film, Kill the Referee, in cui si sentiva l'audio che gli arbitri con gli assistenti e poi col quarto uomo, diciamo, quello che si scambiavano. Voi parlate molto in campo, almeno da quel film sembrava che parlaste molto. Dipende, penso alla personalità di ogni singolo arbitro. A me in campo piaceva parlare molto, anche perché poi era un motivo anche per comunicare con il giocatore e cercare di instaurare anche quel rapporto in campo, con tanta esasperazione, tanta adrenalina, le emozioni, per poter ecco poi alla fine andare d'accordo. No, in alcuni casi anche per non annoiarsi troppo, magari le partite noiosissime, no, in questo caso qua parlare faceva... Ah, io non mi annoiavo. No, in questo caso. Con i giocatori l'ho sempre ritenuto molto, molto importante, proprio perché alla fine una parola detta al momento giusto può veramente ecco drammatizzare molte situazioni e molte cose. Però parlavate anche tra voi arbitri molte volte, giusto? Adesso si parla tantissimo tra gli arbitri per decidere perché cosa fare. Oggi c'è stata una scena molto interessante, nel senso che c'è stato un arbitro che proprio si vedeva che si stava avvicinando lentamente dopo un fallo, dove era la partita Sampdoria. Sì, Sampdoria-Chievo, un fallo su Icardi del portiere Puggioni, e l'arbitro ha temporeggiato, sembrava addirittura che facesse finta di non riuscire a trovare il cartellino, perché l'impressione è che stesse dialogando col quarto uomo per capire se tirare fuori quello giallo o quello rosso. Ha dialogato con tutti l'arbitro e poi alla fine ha dato soltanto il giallo, era in realtà un fallo da omicida, nel senso che da cacciare via immediatamente. Penso che alla fine, come abbiamo detto prima, la tecnologia è importante anche in questo caso. È vero che abbiamo una situazione dove alla fine può anche essere stata risolta in modo positivo, però ci terrei a dire anche una cosa importante, che a volte anche questa comunicazione ti può portare a volte a cambiare idea e anche in modo negativo, perché oggi in campo l'istinto naturale, comunque quando hai le qualità, è fondamentale. Quello che tu vedi in primo istinto di solito è la verità. È come il grande giocatore che nel primo istinto fa gol e non riflette troppo su quello che deve fare. Ah, quindi buona quando la prima? È buona la prima, insomma, la prima impressione, quello che stai dicendo. Beh, io quando ho ragionato troppo su quello che dovevo fare ho sempre cercato quasi poi di perdonare troppo, di pensare sempre, siamo umani, cioè l'arbitro, a volte ci dimentichiamo che è una persona umana e ragiona come umano, e quando ragioni troppo in quel caso lì rischi quasi di poi di cambiare idea. Abbiamo avuto anche comunque delle prove statistiche alla mano dove ragionando troppo poi tu prendi una decisione che non era quella che in quel momento avevi visto e ti porta poi a volte a commettere un errore, per cui quando tu sei bravo, stai facendo una cosa bene, l'istinto comunque naturale delle tue qualità ti certo. può decidere bene la ecco. prima volta. Dai e vai, non è solo calcio. Abbiamo al telefono Massimo Busacca, il miglior arbitro del mondo nel 2009. Con lui stiamo parlando delle modifiche regolamentari che dovrebbero essere introdotte dall'International. L'hai detto così come sulla Fudace. No, il miglior arbitro del 2009. Tra l'altro, chissà come sarà stato contento Rosetti, a cui ha rubato, diciamo, la vittoria in quell'anno del 2009. Come rubato, scusa? No, rubato nel senso che nella competizione è arrivato primo Busacca, secondo Rosetti. Poi ve l'avete sentiti con Rosetti? Sì, no, sono sempre stati molto, molto amici, per cui parlare di rubare un arbitraggio bisogna... No, infatti ha detto una frase così, adesso ce lo ricordiamo tutti come da via. Esatto, Busacca è anche capo del Dipartimento Arbitrale della FIFA dal 1 agosto del 2011. Ecco, abbiamo parlato un po' di tecnologia, sì. Tra le altre regole di cui si dovrebbe discutere è quella famosa del fuorigioco, cioè quando un giocatore interferisce ed è considerato in fuorigioco. Di recente abbiamo avuto il caso di Granqvist sul cross che ha toccato la palla della mano, ecco, ci sono una serie di questioni che sono un po' aperte per quanto riguarda il regolamento. Ecco, sul fuorigioco si riuscirà a chiarire fuorigioco attivo, passivo, si tornerà indietro, eccetera? Sì, perché appunto qui bisogna fare una premessa importante, che purtroppo un ritorno indietro, se qualcuno può risolverlo dopo, vabbè, fondamentale. Lo stiamo cercando di risolvere. Il fuorigioco è non solo la regola, ma poi è la giusta interpretazione che devi dare, no? Per cui abbiamo la regola che può dire delle cose, ma se poi non viene interpretata nel modo giusto è molto difficile fare chiarezza quando poi ci sono le situazioni. Un po' come il fallo di mano oggi, dici la mano è larga e bisogna sempre fischiare. Non è proprio così, l'interpretazione è fondamentale. Allora quest'anno in questa commissione si vuole proprio discutere quello che abbiamo oggi sulle regole e se il wording, diciamo le parole che oggi compongono questa regola, vanno bene per poter far chiarezza quando avviene una situazione. Il giocatore interferisce con il suo avversario oppure no? Si trovava in una posizione dove in quel momento l'attaccante ha potuto comunque confonderlo in una certa posizione oppure no? È questo che si vuole un po' far chiarezza. Poi uniformità al 100% sarà impossibile averla. Però oggi con le regole che abbiamo e con quello che vogliamo fare, ecco, far capire un po' a tutti in che direzione si vuole andare. Altro problema? L'altro problema è quello dei veli per le giocatrici musulmane. Cioè si vuole vietare o consentire il velo? Com'è il dibattito? Ma sì, qui penso che non sia solo una questione sportiva, ma anche un po' politica, diciamo, religiosa, per cui l'anno scorso si è affrontato questo tema e si è deciso di andare avanti con l'esperimento, perché qui entrano un po' in scena anche le questioni mediche, via dicendo, è una situazione dove potrà causare qualcosa oppure no. Io penso che si andrà in questa direzione, perché comunque è anche una forma di rispetto, c'è molta pressione un po' in tutto il mondo, per cui penso che quello che è stato deciso l'anno scorso, l'esperimento che continua, verrà perso. Com'è stato l'esperimento? Beh, l'esperimento è che comunque è stato accettato, ecco, quello che loro hanno chiesto, questo velo, potranno continuare ad averlo. Oggi, poi, avendolo accettato, riceviamo anche tantissime richieste anche sugli uomini, per cui ecco, non solo più le donne, ma in tanti paesi del mondo anche gli uomini usano questo turbante, per cui in questo momento riceviamo... Usaka, segue il calcio italiano? Beh sì, quando posso, che ci sono, sì. Noi però Radio 24 deve seguire ogni tanto le cose importanti, tipo Conte che sta dicendo delle cose in questo momento, visto che la Juventus è in testa. Possiamo sentirlo insieme, 30 secondi? Sì, minuziosamente tutti i dettagli della partita, perché sappiamo benissimo che è una fase cruciale del campionato e i dettagli diventano ancora più importanti sotto tutti i punti di vista. Ok, va bene. No, pensavo magari ci fosse un momento così eclatante e avesse qualcosa di in più da dire, però in realtà è giusto che un mister decida di stare molto attento ai particolari. Altri punti ancora da discutere? In realtà no. Sì. Dica. Ho sempre questo ritorno, non riesco, mi sembra di parlare con me e faccio fatica. Qualcuno lo può facciamo togliere, così, però... mentre sentiamo un po' di Conte, noi lo richiamiamo. Richiamiamo ecco, sì, per favore, ecco. Perché faccio fatica a rispondere. Va bene, richiamiamo subito. Intanto Conte, l'allenatore della Juve. Ecco, buonanotte. Ha fatto ritrovare un po' a tutti i tifosi il senso di appartenenza, l'orgoglio di essere juventini, e quindi trovo ingiustificato quando c'è uno sbaglio tecnico da parte del calciatore che sento dei fischi. Dico, non, lo trovo molto inopportuno, questo non mi piace, lo dico in maniera molto sincera. E poi Giovinco comunque ha segnato e ha zittito tutti. Ilaria. Sì, si stanno abituando molto molto bene. Ecco perché Giovinco non ha esultato dopo il gol. Ecco perché? Era arrabbiato per i fischi. Sì, infatti ci aveva colpito. Ah, arrabbiato con i fischi, ho capito. Infatti si è visto un'immagine in cui Giovinco andava verso il centrocampo e si metteva l'indice davanti al naso e alla bocca, come si dice, sì, come per dire state zitti. Sì, ma non è il caso di alimentare sempre polemiche inutili. Voi della stampa siete sempre così. Alimentiamo soltanto polemiche inutili. Abbiamo però di nuovo ancora Massimo Busacca, pronto? Pronto. Meglio? Meglio adesso? Perfetto, grazie. Perfetto. Senta, le ultime due cose su cui si deve discutere immagino l'introduzione o l'obbligatorietà degli arbitri di porta e poi le riunioni del board ogni anno o ogni due anni. Ecco, per quanto riguarda gli arbitri di porta, che cosa vuol dire? Che tutti i campionati maggiori dovranno averli? No, io penso che qui bisogna fare un'altra premessa molto importante, perché in questi ultimi tempi si è parlato di questo grande cambiamento che la tecnologia sulla porta e l'additional assistant referee, cioè questo arbitro addizionale fuori dalla porta, che comunque è nato soprattutto per aiutare l'arbitro in campo, per cui per poter vedere in quella zona del campo dove per l'arbitro diventa molto difficile poter giudicare se è avvenuto un fallo o no. Per cui questo è la grossa differenza. Non possiamo paragonare l'additional referee fuori dal campo con il goal line technology, che serve semplicemente per vedere se una palla ha oltrepassato oppure no la linea di porta. Perché oggi si fa un po' di confusione. Certo, uno certo. Oppure l'altro. Invece tutte e due potrebbero tranquillamente coesistere in una partita di calcio. Sì, non sono antitetici, diciamo. No, appunto, cioè abbiamo visto come è molto difficile poter vedere se la palla comunque per un centimetro ancora non ha oltrepassato completamente la linea. Poi però abbiamo visto che in alcune situazioni può anche aiutare l'arbitro per altre situazioni, per cui questo è importante da capire. L'obbligatorietà non ci potrà essere, perché chiaramente non tutti i campionati oggi hanno il contingente necessario per poter comunque avere qualità, perché poi non si tratta solo di mettere due arbitri fuori dal campo. Io stesso per due anni ho lavorato con questi arbitri assistenti, però poi alla fine c'è bisogno di arbitri fuori con esperienza che in un caso di dubbio abbiano il coraggio di darti un rigore al 90esimo in una partita 0-0. Appunto. Quando il cuore ti batte a 1000 all'ora, se non hai tanta esperienza e non hai qualità, allora è questo il punto. Non devi solo obbligare qualcuno a farlo, ma devi obbligare comunque a avere qualità anche fuori dal campo, perché sennò, oltre a quello che dicevo prima, l'istinto dell'arbitro che ha visto una cosa può anche indurlo a fare un errore per una decisione data sbagliata. L'ultima cosa è: come mai è importante l'International Board un anno o due anni, ogni anno o ogni due anni? Ma io personalmente sono per ogni anno, perché comunque noi riceviamo parecchie richieste, parecchie pressioni un po' da tutto il mondo, e in effetti a volte sono comunque molto, molto interessanti, perché le regole esistono, però ogni anno vediamo come ci può essere dei cambiamenti, pressioni. Io trovo che insieme con ad esempio con giocatori e anche allenatori si possono trovare sempre delle buone soluzioni per fare anche dei piccoli accorgimenti, per cui io sono per ogni anno, e magari però sarei per poter invitare non solo oggi quelle nazioni che fanno parte, per cui le nazioni britanniche e la FIFA, ma però invitare anche quelle nazioni importanti che oggi alla fine così comandano un po' il calcio, ecco, allargarlo un po' di più e invitare anche gente più importante per dare anche la sua opinione. Busacca, un'ultima cosa velocissima però, c'è una regola che lei vorrebbe? Qual è quella che caldeggia di più, oppure è quella che si è sempre immaginato, oppure detto qui ci vorrebbe questa regola? Beh, rispetto, il fair play, possiamo cambiare ogni anno tutte le regole, ma se non arriviamo a capire che le regole ci vuole il rispetto, ci vuole il saperle accettare, possiamo veramente quindi cambiare ogni anno, no, anzi, ogni tre mesi. No ai tuffatori, no a tutte queste cose, esatto. Qua, cioè questo passaggio, ma quello però non può fare nulla, mi pare, nessuna struttura. No alle mani addosso all'arbitro, come quelle di Legrottaglio oggi durante Parma-Catania. Ecco, va bene, grazie per la sua disponibilità. Una buona grazie serata. A voi, grazie, buona serata a voi. Massimo Busacca è ex arbitro, è in questo caso svizzero. Esatto, componente del board della commissione arbitrale della Federazione Internazionale, miglior arbitro mondiale del 2009. Watch this. Non lo riconoscerebbe nessuno, qui in studio con noi c'è uno che lei conosce bene, no, sotto quel c'è? Cappello, sotto quella barba, Vialli, spatta, perché la fai cappello, stasera, il Luca Vialli che la voleva salutare, anzi non ci ha chiesto niente, ma insomma, ecco, so, qua. Così, ciao, è presentato. Luca. Ecco, sì, non sei microfonato Luca, era solo un'immagine che volevo mostrare, perché poi quando ti vedranno tutto impettito. Gianluca è il mio capitano. Ecco, ma non vedi? Era così, si curava un po'. Caramba, più, che sorpresa. Guardi come si presenta. Cioè, sono veramente... questo devo dire che è vero, perché quando, da calciatore era sempre molto preciso, curava sì, molto l'aspetto. Londra gli sta facendo estetico. Malissimo. Non so se è il golf o l'ho. Si parlava di brodino. Ma perché è sposato figlie, quindi brodino, non è che mangiava sempre il brodino ogni sera, nel senso che una dieta terribile, come Inzaghi che diceva che mangiava sempre la bresaola, la pasta in bianco, eccetera. Invece sì, lui il brodino. Non lo so, c'era comunque un atteggiamento molto esagerato ed è rimasto molto impresso tutto questo suo modo di rapportarsi. Attenzione. Sport Valentina mezza Roma. Ci vuoi chiarire un po' la tempistica di questa tua tentazione? Perché magari i tifosi della Juventus possono essere preoccupati di perderti sì, in un futuro non so quanto immediato o lontano. Calma, l'ho sempre detto che la mia ambizione è quello un giorno di andare ad allenare all'estero, certo. questo è fuori dubbio. Però fa piacere magari ricevere attestati di stima, significa che stiamo lavorando bene io, sta lavorando bene la società, stanno lavorando bene i calciatori. Però ecco, io in questo momento il mio pensiero è esclusivamente alla Juventus, per cercare di riconfermarci in Italia e cercare di fare quanto meglio possibile in Europa, perché l'Europa per noi rappresenta un sogno. Però sono attestati che sicuramente fanno piacere, devono far piacere anche la società, perché significa che un anno e mezzo è inutile fa, chiedere il pronostico, no? Cioè stasera vuoi fare il pronostico per questa sera? No, per me è tutto uguale, va bene. No, comunque, una partita difficile, saranno difficile, gli episodi e quindi... comunque noi pensiamo solo ad andare avanti, certo. Pensiamo al Napoli la prossima settimana. E pensiamo anche al traffico qui a Dai e Vai. Dai e Vai, non è solo calcio. If I'm the BG, BG, yellow Pocahontas, pretty night walk hunters, and we don't buy down on nobody's ground. I love to hear them call my Indian ring, the wild squad too. Watch out for Tula, Pocket Shawi Nation, wow. nobody's ground. I love the heat of gold, my Indian ring, the golden eagle, swam. The spy boy, flag boy, check out the crazy wild man, wild Sinaloa. No, ma mentre noi siamo qua a parlare di calcio internazionale quasi, delle regole internazionali dedicate al calcio, Drogba, Drogba, che okay, buonanotte, io c'ho Pogba, Pogba. Magari c'ho questa fissa che tutto sommato non ci stava male da davanti Drogba, eh? Sì, ho capito, sì, sono pericoloso o no? Senti, pensi che giocherai venerdì? Sarai titolare venerdì? No, io non penso a venerdì, oggi penso alla vittoria, se siamo contenti. Ok, vedi come l'hanno addestrato, sì, subito, eh. Bravo. Hai visto? Diciamo la cravatta un pochettino molle, l'ultimo bottone della camicia un pochettino largo, un po', non è molto stile Juventus, però no, vabbè. Perché tu continui a pensare allo stile Juventus di Boniperti, cioè, beh, capito? Sì, certo, cambiata quello, la Juventus. Ho capito, ma si è adeguata ai tempi, adesso non è che tutti gli altri possono avere le tre le creste. Un po' disordinato. Noi non possiamo neanche avere, cioè, capito? Torniamo a noi, torniamo però anche a questa situazione. Vorremmo lanciare questa iniziativa, cari ascoltatori, qui da Dai e Vai Radio 24. Vogliamo lanciare questa piccola iniziativa, ma che però in qualche modo contempla la seconda parte di Dai e Vai, cioè non è solo calcio. Tu mi avete guardato tutti e due malissimo. No, figurati. C'è una seconda parte, adesso non ci ho detto niente. È una sorpresa, ce lo dici così. No, Dai e Vai la prima parte, questo, sì. Il calcio, questo, sì, quello, sì, che tanto ci entusiasma, tutte queste cose. E poi dopo non è solo calcio, che ogni tanto Luca Cancellara tenta di infilarci. E dentro proprio ora lo Josba segna il gol della bandiera, di 8-1 contro il Kobe. Di calcio stiamo parlando sempre, no? 8-1? Floorball, il primo campionato finlandese. Floorball. Che si gioca d'inverno comunque, perché all'interno, sopra il pavimento, è una specie di hockey prato in palestra. Ma dai? Senza pattini, senza nulla. Cioè hockey pista senza pattini? Esatto, proprio quello. Senti, intanto non cambiare già i termini, è hockey prato, su, capito? No, hockey prato senza il prato. Comunque, l'importante è che Josba ha segnato il gol della bandiera, sta perdendo 8-1. E dove si gioca, in che zona del Finlandia, globo? Finlandia, questo è il primo campionato finlandese. Tanto voglio dire, i nostri ascoltatori si sono un po' rifiutati di affrontare il tema principale, sì. Cordigliano, Perugia, 47 abitanti, sì, quelli che in qualche modo frequentano quella zona, se possono dirci qualcosa dello sceicco che sta iniziando alla scalata, come si suol dire. Sì, lo sceicco Kaddoumi, Kaddoumi, che sta entrando all'interno della Roma e sta mettendo una cinquantina di milioni, esatto, si parla, sì, no? Si parla, ecco, di 40-50 milioni, però a quanto pare la procura non ci crede molto, perché il procuratore aggiunto Nello Rossi ha aperto un fascicolo, o dovrebbe aprire un fascicolo. Sì, ma noi volevamo appunto parlare di Cordigliano, è lì che noi ci interessa, in qualche modo. All'824-0024 possono benissimo telefonare, come invece può telefonare qualche milanista, qualche interista che sta andando lentamente l'MLM 4-4 verso lo stadio, un po' presto mi sa. Beh sì, fa freschino, sono le 18. Intanto aspetta, cioè, secondo te, scusa, no, stavo andando a vedere se nevicava, sì, ancora. Fa molto radiofonia il fatto che ti allontani, però non esageriamo. No, comunque non nevica da questo punto di vista. No, parliamo invece della nostra iniziativa Dammi solo un minuto. Ebbene sì, no, nel senso che qualcosa, no, lì? Sì, però vedi, oltre Dammi solo un minuto non sa le parole. Un po'. Perché ha anche altre parole. Adesso è andato a cercare il testo. Questa cosa qua c'ha altre parole. No, sì, spero di no. Cioè, un soffio dire di fiato. Comunque, un attimo, dammi ancora, solo un minuto. E ci rivolgiamo a tutti voi, cari ascoltatori. Voi che in qualche modo siete lì pronti a realizzare i vostri sogni, siete lì pronti a giocare, siete lì pronti a fare. Cosa c'è? Posso correggerti? No. Cari ascoltatori, ma soprattutto cari ascoltatrici. Va bene, ecco, solito. No, perché c'è, figura, c'è solo un minuto, un soffio, non la sa, di fiato, sì, non la sa. Non la sa tutta, perché adesso c'è il testo. Ok, grazie, va bene. Guarda, ti canto tutto Saraceno, No. Smetti, Ok, va bene, Luca, grazie. Però dammi solo un minuto, di che si tratta. Dovete spedire, dovete mandare qui direttamente a noi, dove? Alla mail daievai@radio24.it. Daievai@radio24.it. ecco, dovete mandarci direttamente un minuto di registrazione. Allora, non è che tutte le volte parte, cioè, capito? Cioè, un minuto di registrazione legato a un evento sportivo. Cioè, dovete fare la vostra, non radiocronaca, non dovete darci la radiocronaca di diretta, dovete fare il servizio per Dai Vai. Dovete spedirci, no, il risultato conclusivo, dovete darci una recensione di quello che è accaduto, no? Quello che normalmente accade, no? Cioè, dentro ogni radio seria, no? Oppure, sì, meglio ancora, di trasmissione, sì, seria. Esatto. Ogni trasmissione seria. Cosa ridi, Luca? No, niente, no, va benissimo. Il file deve durare quanto? Un minuto. Minuto massimo. No, vabbè. Adesso che c'è il testo ti stai un po' montando la testa, effettivamente. Ecco, però, ecco, per esempio, facciamo un esempio. Andiamo subito con l'esempio. Di fronte a una splendida cornice di pubblico si è giocato ieri sera il primo incontro del campionato di football americano di Serie 2 tra Black Rivoli e Jaguari Torino, ossia il derby dell'amore. I Jaguari, semifinalisti della passata stagione, mantengono il favore dei pronostici, ottenendo una faticata vittoria per 16-0. Sempre sabato sera si è disputato il secondo incontro della giornata, che ha visto i Demons del Cernusco Sonadiglio, che scorso anno militavano in Serie 1, sconfiggere con qualche difficoltà la storica franchigia dei Frogs del Legnano per 16-6. Quest'anno alla corsa del titolo di campionato di Serie 2 corrono ben 24 team. Jaguari e Demons figurano tra le favorite insieme ai Lions Bergamo e Elephants Catania, entrambe autoretrocesse dalla Serie 1, e le terribili romane finaliste della passata stagione, ossia i Grizzly e i Barbari Roma Nord, che sono anche i campioni in carica. In questo weekend inizia anche il campionato di football a 9, a cui partecipano ben 40 squadre. Ieri sono stati disputati solo due incontri, Storm Pisa e Terni contro Terni Football 8-20 e Condor Grosseto contro Red Jacket Lunigiana 21-50. Campionati che iniziano con il lutto al braccio per la prematura scomparsa della giovane Erika Lazzari, giocatrice del Neptunes Bologna. Da Torino è tutto, per Dai e Vai Radio 24, Alessandro Lucca. Potremmo modificare un attimo. Dammi cosa? Meno di un minuto, perché un minuto è lunghissimo. 30 secondi. Guarda che secondo me ci sta 30 secondi, voglio dire. No, ecco, però voi andrete, non so, a giocare a calcetto. Cricket. Tu non sai le regole del cricket. Però andate a giocare a calcetto tra il bar Ciuffoli contro il bar Riccioli, sì, no? Perché sì. No? Perché no non darci quel minuto che ci dà l'informazione esatta di quello che è il clima all'interno di quella partita. O tu che ami tanto il dressage. Una bella recensione, un servizio sul dressage, no? Sì. Ma cosa ti ridi? No, niente, grazie. Ah, ecco. Cioè, ti ringrazio per questo suggerimento, voglio dire. No? Ma andate a fare una gara di motocross, perché no? Perché no? Dateci questo minuto, noi non potremo seguirvi ovunque. No, dentro questo. Sì. Un soffio di fiato. Bella sta rubrica, no? Bella. Mi piace soprattutto quella dell'introduzione di Luca, l'apprezzo molto. Sì, la teniamo buona per il momento, no? Su questo quadro. Ricordiamo dove dovevamo spedire, dove in qualche modo possono mandare le loro registrazioni, perché di questo si tratta. Non dovete scriverci, non è che leggiamo noi. Vogliamo l'audio, cioè pigliate il telefonino, il cellulare, ecco. Iniziate a fate partire il registratore, poi pigliate il file e lo spedite, è semplice, no? Vogliamo un audio più decente di quello che abbiamo avuto fino adesso, perché insomma non era granché quello che avevamo, no? E comunque diciamo dov'è che bisogna spedire tutto? Via mail a daievai@radio24.it. Dai e vai come nome della trasmissione, chiocciola come nome della chiocciola, radio24 come nome della radio.it, cioè l'Italia. Ecco. Va bene, questo ci riempie di gioia da questo punto di vista. No, però vediamo un attimo, cioè, diamo degli altri suggerimenti, non so, c'è altre partite che possono in qualche modo seguire. Beh, c'è l'hockey su pista, c'è l'hockey su ghiaccio, sta finendo il campionato di hockey su ghiaccio, l'hockey su pista, anche l'hockey su pista credo che siano nella parte finale del campionato. La pallamano. Sì, cioè, cos'è che non seguiamo da tempo? Il tamburello, per esempio. No, tamburello, sì. Il dressage ci manca un po'. Il dressage l'abbiamo un po' abbattuto, dentro le loro. Faranno una gara di pentathlon in Italia, prima o poi in un fine settimana. Raccontateci che come è finita quella gara di pentathlon. No, fanno gara di pentathlon. Fanno gara di pentathlon in Italia. Sì, non esatto. Ci credo. Poi c'è la canoa fluviale, c'è la canoa olimpica, poi c'è il canottaggio e c'è gli scacchi. Ne parleremo dopo il GR, va? Dai e vai. Non è solo calcio. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così. Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? quel fascio di muscoli in cerca di un neurone, gonfiato ed addestrato per dar calcio ad un pallone. Allora balla per me Belina, balla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me Belina, balla, piangi sulla mia spalla, dai sfogo al tuo dolore. Balla per me Belina, balla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Dalla a me Belina, dalla, che sei cornuto l'arbitro e pure il giocatore. Principe azzurro, mentre si scioglie al sole come il burro. Ripensa adesso alle sue pose plastiche, l'idolo della folla che salta e mostra svastiche. Guardalo adesso, che si è rotto il guscio, il tuo pulcino muscoloso col pisello moscio. Rotola sai, rotola la palla, il modulo a tre punte, la fase difensiva. Ripartenze, crollano le apparenze, andiamo dita al succo, fuori il trucco. Qualcuno sta barando, è il grande vecchio, che soffia nel fischietto con il telecomando. Allora balla per me Belina, balla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me Belina, balla, piangi sulla mia spalla, dai sfogo al tuo dolore. Balla per me Belina, balla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Balla a me Belina, balla, che si è cornuto l'arbitro e pure il giocatore. Sì, sì, sì, va bene anche il basket femminile per dammi ancora un minuto, sì, hai capito? No, cioè, questa... anzi. No, figurati, pallavolo e basket femminile vanno benissimo. Pallavolo, basket femminile, sì, pallamano, palla prigioniera, sì, cioè tutto. Fate anche un torneo di scopa al lasso. Esatto. A noi va bene, va benissimo. Guarda, fate anche, dateci un minuto di scopa al lasso. Non vorrei dirti, ma il bridge voleva diventare sport olimpico. Tu fai tanto l'ironico sulla scopa al lasso che è bellissimo come sport. Voglio dire, bellissimo lo scopo all'asso, voglio dire, infatti sono autoironici quelli dello scopo all'asso, non chiedono di entrare nell'Olimpo dello sport olimpico. No, e poi ci sono anche altre cose, c'è una nostra ascoltatrice su Face, mi pare, sulla pagina Face di Dai Vai Radio 24, cioè, ha detto, ve lo spiego io le regole del cricket. Esatto, sì, sì, che mi sembra più una minaccia, cioè, voglio dire che... Sì, era, il tono non era quello, Rosy ci scrive, ve le spiego io le regole del cricket, era piuttosto sull'aggressivo. Ecco. Noi attendiamo le regole del cricket. Perché tu l'hai sentito, l'hai letto aggressivo quella cosa? Sì, perché il tono era quello. Te la sera vieni qua che te le spiego io le regole del cricket. Vabbè, comunque il basket femminile esiste come ed è Fornella. C'è scritto che ci dice appunto. Esatto, al 349-238-6666. Non so se tu hai sentito, ma io ho sentito distintamente canticchiare Pierpaolo Romani, giornalista e scrittore, che canticchiava la canzoncina di prima, giusto? Sì. Pierpaolo? Certo. Sì, la ballavo anche. Vedi che sotto sotto ti conosciamo, mascherina. Senti, noi nei momenti critici di cui non siamo abbastanza perplessi, ma cerchiamo di capire qualche cosa su quello che sta accadendo non soltanto in campo ma anche fuori del campo del mondo del calcio, ci rivolgiamo a te in questo caso, no? Quindi ti chiediamo, noi abbiamo letto questo articolo, Napoli la rapina d'Amsim, il IPM, c'è chi vuole intimidire il club. Questo è il 19 febbraio 2013, non tanto tempo fa, no? Ricordiamo che c'è stato una specie di aggressione dove è andato via l'ennesimo Rolex, esatto, ad Amsic, però ce n'era stato anche un altro episodio, no? Sì, c'era stato un episodio qualche giorno prima, qualche settimana prima in realtà, più che giorno, era stata scippata la moglie di Cavani, poi c'era stato un periodo nell'autunno 2011 in cui la squadra era stata colpita da 3 o 4 furti rapine in casa, in macchina, in giro, quindi non è il primo episodio. Non è niente di che, ma purtroppo sono disagi che fanno parte della città, dice lo slovacco. Questo Amsic. Lo slovacco. Sì. Che no, non il PM. Non è, cioè abbiamo adesso un PM slovacco. Adesso, può essere, che magari modi sono? No, a questo punto noi che ci rivolgiamo a te, è così? È soltanto un disagio che fa parte della città, quello che sta accadendo intorno al Napoli? Ma guarda, diciamo che io penso che bisogna mettere in fila gli episodi in un arco temporale e territoriale ben definito. vedo che gli investigatori per il momento appunto hanno fatto queste dichiarazioni, ma certi sviluppi non sono ancora diciamo così, non si sono ancora sviluppati. La mia idea però è che non si tratti di semplici rapine, perché accadono con una certa frequenza. L'ultima addirittura questa di Amsic, per rubare un Rolex si parla di 5 persone che probabilmente lo hanno seguito finita la partita e poi lo hanno anche picchiato. E poi bisogna tenere conto, ecco, che attorno a una società si muovono tantissimi interessi, in primis il merchandising, e poi dobbiamo pensare anche a tutto il discorso dei biglietti omaggio, buona parte dei quali a volte viene intercettata anche da settori criminali della tifoseria che fanno un bagarinaggio spietato. E poi bisogna anche pensare ad un'ultima cosa, che 6 anni fa il Napoli ha deciso di spostare il proprio centro sportivo di allenamento. Ah. Ecco, spostare un centro sportivo da una parte della città ad un'altra vuol dire anche spostare una serie di interessi attigui a tutto ciò che ruota attorno anche ad un centro sportivo. L'indotto, no? In qualche modo, no? Esattamente. Ecco, quindi mi sembra più articolata e complessa, se la vediamo tutti gli episodi messi in fila, ripeto, in un arco temporale territoriale ben definito. No, anche perché comunque ci sono stati degli episodi, non necessariamente contro il Napoli, in cui c'è intorno, c'è una pressione, c'è un qualche cosa che accade. C'è poi, ricordiamo sempre che è una situazione piuttosto strana, è una cosa vecchia, è vecchissima, però riparliamone, cioè, voglio dire, il Toto Nero in qualche modo ha anche condizionato la storia in qualche modo del Napoli anni e anni fa, no? In questo passaggio, quindi non c'è nessuna relazione con l'attuale, perlomeno non c'è niente che lo collega, però diciamo che si è abbastanza abituati anche a vivere un po' quella situazione un po' strana, quella tensione anche un po' strana. Diciamo, ecco, che la cosa che a me sta molto a cuore dire è che non dobbiamo cadere nell'errore degli stereotipi, per cui no. Napoli, città insicura, eccetera, eccetera, no. Però Napoli è una città che storicamente ha un problema molto serio che si chiama Camorra, ok? Una parte della forza della Camorra consiste nel controllo del territorio, non solo in un controllo militare, ma anche in un controllo sociale, economico e politico, purtroppo, mi viene da dire. E tu hai ragione quando ritorni al tema del Toto Nero. Ma io, come racconto in Calcio Criminale, c'è stato un salto. Oggi i camorristi controllano e un pezzo delle scommesse clandestine, ma hanno cominciato a comprarsi le agenzie anche lecite, ecco. Okay, dove si può giocare. E è difatti un cosiddetto pentito di Camorra, interrogato a Napoli dai PM, non di una sezione qualsiasi, ma appunto della direzione distrettuale antimafia, lui dice: guardi, quando nel 98 in Italia si sono legalizzate e liberalizzate le scommesse, noi non abbiamo fatto altro che tenere insieme e il Toto Nero e ci siamo comprati le agenzie, perché noi, a differenza di altri, i soldi li abbiamo e sappiamo come si fa. D'accordo? Ecco, poi se ci aggiungete tutto ciò che ruota attorno alla squadra, per esempio della nuova Quarto Calcio, di cui so vi siete occupati, sì, certo, certo. Ecco, immaginate che cosa significa anche la gestione di una squadra di calcio e colpire alcuni simboli di una squadra di calcio, perché ecco, Amsic non è un giocatore qualsiasi di quella squadra, certo. Quindi colpire un simbolo vuol dire anche mandare un messaggio magari ad altri che stanno vicino ad Amsic. Ecco, ma lì la condizione forse è un po' pericolosa, perché poi dopo Amsic a questo punto potrebbe anche andare via o cose di questo genere. In realtà poi dal punto di vista economico questo è irrilevante. Beh, sai, ci sono stati episodi che ho potuto studiare da vicino, nel quale rispetto a queste, a quanto accaduto, ci sono state diverse letture. Da una parte mandare un messaggio, perché magari un calciatore ha certe condizioni, d'accordo? Dall'altra parte abbiamo assistito anche a calciatori che si sono rivolti a frange criminali della tifoseria per chiedere invece un sostegno nel rialzo della posta del contratto, oppure per evitare il trasferimento da un'altra squadra. Ok, quindi ecco, gli intrecci sono particolari. Certo è che, se secondo me non si pone un freno rapido e chi sa parla, perché qui è fondamentale questo, perché se un giocatore esce con la sua macchina e a pochi metri di distanza 5 persone prima lo salutano, poi lo fermano, lo picchiano, eccetera eccetera, chi lo sa che non ci sia anche qualcuno dal di dentro che fornisce determinate informazioni rispetto a questo. Va bene, noi ci fermiamo qua, grazie Pierpaolo Romani, noi ovviamente torneremo anche a trattare altri temi, ti telefoneremo, ti metteremo la sera la solita canzoncina così potrai ballare, e ovviamente ricordiamo anche per tutti quelli interessati il libro Calcio Criminale. Grazie, buona serata. Grazie a voi. Buona scusa, ultima cosa. Dimmi. Pronostico per stasera? Beh, l'Inter sicuramente, neanche da chiedere. Ah, ecco, vabbè buona notte. Ciao, grazie, buona serata. Ciao. Traffico. Hai sentito cosa hanno detto sul traffico? Sì. Milano già zona traffico verso lo stadio, c'è traffico, rallentamenti, insomma, sono cose che succedono. Sono cose che succedono, però noi ci allontaniamo ancora dal calcio per andare sulla nostra parte, non è solo calcio, dai e vai. E quindi però a questo punto andiamo a parlare di atletica leggera, leggerissima, è una cosa che in qualche modo ci stupisce molto spesso e la andiamo a guardare poi soltanto molte volte alle Olimpiadi, per la maggior parte dei nostri ascoltatori, in realtà ogni tanto bisogna guardarla in anticipo. No? Sì, bisogna guardarla in anticipo anche perché il prossimo fine settimana ci saranno i campionati europei indoor di atletica leggera, ma anche perché dopo un periodo in cui l'atletica italiana ha avuto, diciamo, un po' di alti e bassi, c'è stato Andrew Au che purtroppo ha avuto dei problemi fisici, nelle ultime settimane, proprio negli ultimi giorni ci sono stati troppo tecnico. Un pochettino. Pim pum pam, faccio più lento. Pim pum pam, no? Record a manetta, come si suol dire. Sì, no? Diciamo, quella più eclatante di cui si è parlato di più è Alessia Trost, che ha superato i 2 metri, quindi ha raggiunto quella misura, raggiunta da 2 grandi campionesse nel salto con salto in alto femminile, come Sara Simeoni e la Di Martino, Antonietta Di Martino. Poi nei giorni scorsi, record italiano nei 60 indoor di Tumi e Jacob Slamont, che ha fatto il primato italiano nel lungo junior, ha saltato 7,75 nel lungo. Quanto? E 7,75, sì, praticamente 7,75. Un tiro ha saltato, sì, ancora, sì, un po', ecco. È un record che risaliva al 1976. Parliamo di queste cose, ne parliamo però col direttore tecnico giovanile dell'atletica italiana. Sì, un nome così, cioè buttali un nome, dai, buttali un nome. Già così? Sì, buttali un nome, dai. Gino. Stefano Baldini, proprio lui. Stefano? Buonasera a voi. Posso darti del tu? No, ci dobbiamo dare del tu. Così mi atteggio un po', così. Ho parlato con Stefano ieri sera, sai, è stato un po' così. No, Stefano, noi ti ricordiamo ovviamente per i tuoi passati atletici, ovviamente dopo di te la Grecia ha avuto una debacle epocale. Però ecco, quel che momento... responsabilità hai con la tua medaglia d'oro a maratona sulla crisi economica della Grecia? Zero. La mia direi che è abbastanza pesante, ma penso che alla fine sia stato un po' il risultato di tutte le medaglie. Ecco. Sono d'oro finto, perché fossero state d'oro vero, oggi la Grecia sarebbe messa ancora peggio. Però è stata epocale la tua premiazione, no? Dopo di lì c'è stato il diluvio, cioè quel momento lì. Chiaramente vincere la maratona olimpica sul percorso dove la leggenda di maratona è nata, è chiaro che ha un sapore diverso, tutto particolare, e 108 anni dopo Spiridon Lewis, correndo nella storia di Filippide, insomma, chiaramente mi rimarrà attaccata questa etichetta, che per fortuna è un'etichetta bella. Sì, è bellissima, no? Ma poi è un'immagine incredibile, cioè essere poi premiato lì, no? In mezzo a tutti, l'ultima premiazione, mi pare, no? Sì, l'ultima premiazione, quindi... all'interno della cerimonia di chiusura. Esatto, quindi, esatto. Qualcosa di che rimane sicuramente nell'immaginazione. Hai voglia, sì. Di cancellare un'immagine di quel genere, cioè rimane a noi, figurati a te, voglio dire, da questo punto di vista. Scusa se ti abbiamo fatto questo inciso, però volevo chiedere da tanti anni che immaginavo che quello era un momento sicuramente importante. Dopodiché Baldini è andato avanti a gareggiare, ha fatto la maratona anche a Pechino, eccetera eccetera, e a un certo punto adesso è diventato un tecnico, si è arrivato a dirigere il settore giovanile e sta succedendo il finimondo, cioè è Tumi e Jacob Slamont, anche perché la Trost credo che fosse categoria giovanile fino al 31 di dicembre, o sbaglio? Fino al 31 di dicembre, e lo scorso anno aveva vinto il campionato mondiale juniores a Barcellona. Ma al di là di di quello che è successo ultimamente non è cambiato granché nell'Atletica italiana, è cambiato il governo e un po' l'atmosfera, sì, l'aria che si respira. C'è un po' più serenità e la voglia di rimettersi un po' tutti in gioco, visto che abbiamo fatto abbastanza fatica. Insomma, l'atletica è lo sport più universale in assoluto, oltre 200 paesi che reggono le manifestazioni quando mondiali. Quando tu dici fatica, stai parlando di Londra? No, sto parlando di un quadriennio che ci ha visto nel settore giovanile andare abbastanza bene, e i frutti si vedono anche adesso, quindi insomma il lavoro degli, sì, altri alla fine ha pagato, ma nel settore giovanile siamo sempre competitivi. Invece quando poi diventano grandi, lì abbiamo un po' più di difficoltà a confermare quelle che sono le premesse. Ecco, perché nel prossimo fine settimana ci sono gli europei e tu, Mi, che ha fatto il record italiano nei 60 indoor, se non erro, se non è successo qualcosa nelle ultime ore, la seconda prestazione mondiale, ma la prima ce l'ha uno statunitense, quindi è la prima prestazione europea, cioè andiamo a fare una gara di velocità nei 60 indoor con la miglior prestazione, cioè una cosa che non succedeva da una vita. Da una vita, anche perché il vecchio record italiano dei 60 era di Pier Francesco Pavoni ed aveva parecchi anni di vita e in coabitazione con Coglio e Cerutti. E poi soprattutto perché non è solo Michael Tumi, ma è anche Alessia Trost che è sul tetto d'Europa in questo momento e quindi si giocherà le sue chance. È Silvano Chesani che ha battuto il record italiano di salto in alto, che ha fatto 2:33 domenica scorsa. E soprattutto per quello che mi riguarda, Roberta Bruni, che lo scorso fine settimana ha fatto un bel 4:60 nel salto con l'asta a 18 anni, e questo la dice lunga sulla qualità e anche sull'età media dei nostri ragazzi, che ci daranno ancora parecchi anni di soddisfazioni, spero, eh. Sì, sì. Cioè. No, no, perché tu hai detto è cambiato. Lo sento un po' scaramante. Alza le mani. Ma guarda, ad esempio Jacobs, che ieri ha fatto 7:75 nel lungo, stamattina si è presentato alla partenza di 60 metri e subito tac, piccolo risentimento muscolare. No. E quindi insomma, niente di grave. E sabato prossimo, sempre qui ad Ancona, dove ci sono i campionati italiani in questo momento, c'è un bel triangolare juniores Italia Francia Germania, io Jacobs lo voglio al 100%. Sì. Allora, Stefano, non è che ti abbiamo telefonato per farci sentire delle brutte notizie, cioè dacci delle notizie decenti, per lui non dico belle. Le notizie decenti sono che ad esempio ieri è caduto anche il record italiano juniores dei 1500, sì, per diciamo gambe non mano di Federica Del Buono, che corre come Gabriella Dorio, quindi insomma abbiamo delle giovani speranze, ma ne abbiamo parecchie. Guarda, ho passato una o due giorni qui, campionati italiani under 18 e under 20, e ne esco decisamente felice e soddisfatto. Siamo contenti, noi ti disturberemo ancora per avere poi dopo un bilancio di quello che accadrà la prossima settimana. Assolutamente, anzi insomma spero di darvi delle ottime notizie così come le abbiamo avute in queste settimane. Ti ringraziamo, buona serata. Il pronostico per stasera, Inter-Milan? Inter-Milan, un bel pareggino, visto che io da tifoso della Juve, ma insomma, le voglio tenere un po' lontane. Stefano, lo sapevo che eri un fratello bianconero. Ciao, grazie, è stato bello. Ciao. Church bells are ringing, choirs are singing, while the preacher's groan and the sister's moan in a blessed tone. Down in the tremé, just me and my baby, we're all going crazy, but jumping and having fun. Roberto? Pronto, Roberto? Ti vuoi avventurare sul pronostico per questa sera? Sì. Dai. Guardi, allora, se vuoi dire anche le reti. Oh, bravo, perfetto, bravo. Era quello che volevamo, perché... Vai, cioè, tranquillo. Vai. Allora, da milanista io prevedo un 2-0, non voglio essere eccessivo. Per chi? Per il milanista. Vabbè, non è detto, magari è superstizioso. Ha detto, milanista, prevedo 2-0. Poi? Okay. Niente, le reti... spero Balotelli e Sharawi. Ah, proprio Balotelli così. Balotelli e Sharawi. Ok, grazie, è stato bello. Ciao. Molto gentile, anche voi, complimenti per la trasmissione. Anche a te, grazie. Complimenti. Perché lui tra complimenti per la, complimenti per la telefonata. Sì, certo. No, invece, ecco, torniamo a noi, torniamo. Intanto, se proprio volete, potete mandare tutti i vostri pronostici direttamente al 349-238-6666 questa sera alle 22. Ne verificheremo se siete riusciti in qualche modo a azzeccarne almeno una, perché di solito poi il tifo sovrasta qualsiasi logica razionale nel dare i giudizi delle partite. Bene, noi in questo caso questa sera alle 22 torneremo di nuovo a voi. Noi nel frattempo restiamo ancora qui e restiamo sulla parte del non è solo calcio. Sì, molto non è solo calcio. A volte non è, cioè, spesso non è solo calcio, e quando non è solo calcio a volte è hockey su prato. Sì, ma è hockey su prato anche femminile, mi verrebbe da dire. Hai visto? Non soltanto hockey su prato. Proprio... Diciamo che col calcio il comune c'ha il prato. Ecco. Nel senso che, cioè, su quello non ci sono dubbi. Va bene. Ne parliamo perché c'è il round 2 della World League. Perché per riuscire a vincere la World League ci sono tutta una serie di passaggi. Fai tre round. L'Italia ha vinto, ha passato il terzo round. E adesso arriva al round 2. Da mercoledì inizia il torneo, a cui partecipano anche Spagna, Irlanda, Repubblica Ceca e Bielorussia. Le prime due di questo gruppo di 5 squadre si qualificano al round 1, dove ci saranno le migliori al mondo. Noi ne parliamo con Chiara Tidi. Pronto, Chiara? Pronto, ciao, buonasera a tutti. Come va, Chiara? Tutto bene? Tutto a posto, sì, grazie. Chiara Tidi, capitano della nazionale, cioè non, giusto? Sì. Perché sì, tu sei capitano e le tue compagne di squadra no? Spiegaci. Ma che ti fai? No, è importante sapere. Bella domanda. Perché sei capitano della nazionale? Puoi anche non rispondere, non è che sei obbligato. No, direi scelta tecnica. Scelta tecnica. La scelta all'allenatore. Non fate la votazione con le urne? No. Visto che siamo in giorno di votazione. No, non lo fanno. No, in questo caso è stata scelta dell'allenatore. Tra l'altro loro non votano. Sì, in che senso? Perché sono in Spagna? Esatto. Voi non votate? No, non possiamo votare. Ah, però, hai visto che roba, esatto. Peccato. Vabbè. Torniamo a noi e torniamo ovviamente, Chiara, tu quando vai, incontri delle persone, degli amici, delle persone, vai a cena con gente che non conosci, vai là, e dici, tu cosa fai? Gioca a hockey su prato. Esatto. Reazione qual è? Reazione... Ma dai, smettila. Infatti, come si gioca, ti chiedo, no? Sì, se si gioca con i pattini o se si corre, se si gioca con un dischetto o con una pallina. Mm. Quindi tu cosa? Cioè, quindi adesso, tu riesci, ormai sei allenata a spiegare in 30, esatto, in 30 secondi che cosa consiste tutto questo, no? Quindi. Esatto, in 30 secondi è uno sport molto simile al calcio, si gioca in 11 su un campo di erba sintetico. E semplicemente l'unica differenza è che giochiamo con un bastone da hockey e una pallina di plastica dura. Ecco. I ruoli sono quelli simili al calcio, c'è un portiere, c'è una difesa, un centrocampo e un attacco. No, il terreno di gioco è 91 metri? Sì, è un po' più piccolo di quello da calcio. 91 metri per 55, questo per capire. Esatto. Cioè, quindi ci vuole anche spazio per giocare a hockey su prato. Sì, sì, giochiamo in 11 in campo. Quindi... Sì. Ma fammi capire, dov'è che ti alleni tu? Io gioco già ormai da 4 stagioni in Spagna. Ah, quindi sei già lì fissa. Però sono di Roma e a Roma giocavo nella Libertà San Sabal, Tre Fontane, all'Eur. Ah. Mm. E tu sei in Spagna per motivi, cioè perché giochi in una squadra spagnola e quindi sei professionista. Una professionista del o per motivi di studio, per motivi di amore, non lo so perché. Esatto, sono in Spagna perché mi ha contattato questa squadra di San Sebastián. Mm. E niente, sono lì, diciamo, da semiprofessionista, sì. No. Allora, noi che chance abbiamo in questa World League, in questo secondo round? Beh, come intanto, come intanto detto, scusa, com'è andato il primo round, tanto per capirlo? Il primo round siamo passate noi e la Bielorussia. Ecco. Che incontrerete in questo secondo round anche, giusto? E in questo secondo round anche si classificano solo due squadre e niente, ce la giocheremo. Quindi c'è la Spagna... Giusto? C'è la Spagna, l'Irlanda, la Bielorussia e la Repubblica Ceca. Ecco, ma qual è quella più forte in questo caso? L'Irlanda è la prima, diciamo, forza in questo torneo, perché come ranking mondiale c'è l'Irlanda, la Spagna, poi noi, la Bielorussia e la Repubblica Ceca. Quindi noi siamo collocati al terzo posto, ci stai dicendo, ci stai dando questa notizia? Esatto, come per queste squadre sì, noi siamo al terzo posto, diciamo, però ovviamente... Poi ce la vediamo in campo, no? Giusto? Esatto, poi in campo. Senti, diciamo la nostra. Quali diciamo. Sono quelle più antipatiche, più rognose, più... Ah no, diciamo che siamo quelle più rognose in questo torneo? Sì, cioè, credo l'Irlanda. No, ma non dal punto di vista della forza, perché l'Irlanda è 14esima nel ranking, la Spagna è 15esima, mentre l'Italia è 17esima nel ranking mondiale. Sì, però esatto. Quelle che quando vai in campo ti fanno il fallettino, quelle che protestano sempre, quelle che ti dicono magari qualche... cioè quelle un po' più antipatiche delle squadre. Diciamo che se la battono Bielorussia e Spagna. Perché c'è qualche giochettino un po' sotto, qualche gomitatina anche nell'occhio su Prato? No, diciamo che il contatto fisico non è ammesso, però sicuramente qualcosa c'è, scappa qualche contatto ogni tanto. Sì, vabbè, senti, io l'ho sempre pensato, questo hockey su Prato, io ho sempre pensato che la schiena sia, un po' sottoposta a uno sforzo pazzesco, è vero questo, no? Immagino? È vero a metà, perché comunque c'è un lavoro fisico molto importante per quanto riguarda la parte inferiore del corpo, quindi le gambe, quindi noi lavoriamo tantissimo sulle gambe più che sulla schiena. Ah, ho capito, quindi è soltanto un'impressione per noi. È un'impressione, da fuori può sembrare, ma in realtà non lo è. Forse anche perché anch'io ho mal di schiena sempre, quindi questa cosa qua, pensare di piegarmi così tanto, in questo caso mi metterebbe sicuramente in difficoltà. Voi ovviamente pensate di riuscire a superare questo secondo round brillantemente, giusto? Beh, sicuramente questa è l'intenzione. Senti, l'ultima partita ce l'avete domenica prossima o quella successiva? No, l'ultima partita è domenica 3 marzo alle 11 contro l'Irlanda. Esatto, quindi poi quando andremo in onda alle 16:30 domenica daremo il risultato, perché Italia-Irlanda immagino che potrebbe anche essere partita decisiva per voi, giusto? Uno scontro diretto, sì. Grazie. Grazie a voi. Ovviamente buona fortuna, non so se si dice. No. Meglio in bocca al lupo in questi casi. Vabbè, ma scusa, tu intanto per stasera, Milan o Inter? Nessuno delle due. Perché tu tifi? Roma. Io tipo Lazio. Lazio. Va bene, ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Buona serata. Grazie anche a te. Buonasera. Buonasera a te. Era Chiara Tiddi, capitana della Nazionale di Hockey su Prato. Ciao, buonasera. Non volevo lasciarti così. Se vuoi dare i risultati, dalli. No, intanto è arrivato un SMS con un pronostico Milan 3 Inter 1. E per adesso tutti i pronostici che danno il Milan vincente, il nostro Pierpaolo Romani. Perché intanto gli interisti stanno un po' così schisci, no? Forse, in tutta questa vicenda. Forse gli interisti stanno andando tutti allo stadio perché giocano in casa, perché Inter Milan, e quindi tutti gli abbonati dell'Inter e tutti gli interisti stanno andando allo stadio. No, stanno andando comunque, si stanno avvicinando. Quanto riguarda 824-0024, oppure su Scaramantici hanno paura di affrontare il risultato, di dare il risultato per quanto riguarda la vicenda, di questo derby di questa sera. Vabbè, ricordiamo alle 20:45 Inter Milan allo stadio di San Siro, poi comunque noi saremo in onda dalle 22 alle 23 con Dai e Vai, la parte quella più notturna, quella più con le luci basse, per quanto riguarda la nostra trasmissione. Vedremo la parte finale del derby. Senti, abbiamo così al telefono uno dei due, forse li abbiamo tutti e due, gli autori di questo, la grande storia del derby di Inter e Milan-Inter in questo caso. Io immagino il dibattito se mettere prima Milan-Inter o Inter-Milan, già su questo ci sarebbe stato da capire, e che sono Fabrizio Biasin e Francesco Perugini. Pronto, ci siete? Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Tu sei? Fabrizio, Francesco e gentiluomo, perché la posso vivere a Milan prima di Inter. Allora, Fabrizio, fermo un attimo. Francesco, ci sei tu? Sì, eccomi. Eccoti. Allora, quando avete deciso di fare questo libro, La grande storia del derby, come avete deciso prima Milan e poi Inter? Cioè, come avete deciso che far giocare prima in casa? Il libro stavo dicendo, gli interisti sono gentiluomo. gentiluomini, quindi cedono il passo, lasciano passare davanti in Bina senza problemi. Non sono queste piccolezze che fanno la differenza. E quindi tu sei ovviamente Fabrizio, l'interista. Sono Fabrizio, minimamente interista, sì. Minimamente interista, mentre invece, vabbè. Francesco, tu giustizia, cioè, sei d'accordo su questo piano? Tra l'altro, Fabrizio ha poco... La scelta è obbligata, visto che loro sono nati da una nostra costa, da un piccolo. Senti, no, adesso volevo capire, siccome Fabrizio c'ha pochi minuti, nel senso, perché stai andando al derby? Sì, sì. Mi tocca, devo andare più per diletto che per lavoro, ma ci devo andare. Sì, beh, diciamo un bel lavoro dilettevole, insomma, in questo caso. Un po' freschino stasera, vi dirò. Butta via, però voglio dire, ha smesso di nevicare, cosa vuoi di più da questo punto di vista? Ecco, la grande storia derby Inter, del derby Milan-Inter. Fabrizio, quanti anni hai? Io 34, ahimè. Francesco? 27, quindi giovani in realtà, no? Quindi la grande storia voi in qualche modo l'avete studiata, l'avete vista dove e come, tra le altre, oppure avete sentita anche, no? Guarda, in realtà è un libro scritto a quattro mani, ma a una mente sola, che è quella di Francesco, che è la mente storica di questo libro. Lui sa tutto dal primo all'ultimo derby. Io sono lo scemo che si è divertito a cazzeggiare e ha buttato qua e là qualche aneddoto, ma la veramente storica di questo libro è lui, Francesco. Cioè, quindi è il milanista la mente storica. Il milanista è bravo a ragionare su cifre, dati e numeri. Io, come tutti gli interisti, ho più fantasia. Come tutti gli interisti, ha detto. Sì, come tutti gli interisti, okay, ha più fantasia. Senti, Fabrizio, visto che tu sei quello degli episodi, degli aneddoti, qual è l'aneddoto principale o più famoso o che ti ha colpito di più del derby Milan-Inter? Ma guarda, ahimè, purtroppo io devo ricordare uno dei derby più recenti, se teniamo presente tutta la storia, e quelli che hanno fatto più male all'Inter, cioè il famoso 6-0 con doppietta di Comandini, credo che segnò anche il massaggiatore del Milan. Sì. Ho segnato anch'io in quel derby là e non sono né interista né milanista. Esatto. Un derby che è passato alla storia non solo per i milanisti ma anche per gli interisti, perché poi da quella partita forse è nata un'altra Inter, l'Inter che poi negli ultimi anni ha vinto un po' tutto. Poi sì, personalmente mi ricordo sempre l'ultimo derby, soprattutto se l'ho vinto, come in questo caso. Certo. Francesco, invece tu quale ti ricordi? Quale ti è rimasto così stampato nella memoria? Uno è il mio derby preferito, parlo soprattutto per motivi anagrafici, la semifinale di ritorno di Champions League 2003. Lì, altro che un'altra Inter, lì è nato un grande Milan che ci ha accompagnato per tutto un decennio del 2000, e quella partita dimostra quanto siano equilibrati i derby, quanto possa cambiare un decennio di storia a Milano per una parata di ginocchio su Callon piuttosto che, ecco, una rimonta dell'Inter che chissà che cosa avrebbe potuto cambiare nella storia non solo del calcio milanese ma probabilmente tutto il calcio italiano. Senti, ti sentiamo persino provato ancora nel ricordare questo momento. Dai e vai, non è solo calcio. Non è solo calcio, ma per il momento è solo derby. E stiamo parlando di Inter e stiamo parlando di Milan con Fabrizio Biasin e Francesco Perugini, che hanno scritto la grande storia del derby di Milan-Inter in questo caso. Bene, allora dicevamo appunto degli episodi più importanti, quelli che vi hanno in qualche modo marchiato, però voi siete giovani, diciamolo in questo passaggio, e quindi ricordate cose recenti da questo punto di vista. Intanto voglio subito, immediatamente, pronostico, senza scaramanzia da parte di tutte e due. Guarda, io solitamente evito di fare pronostici, perché questo è un momento brutto per noi interisti. Arriviamo da una partita 7 giorni fa drammatica, bruttissima, a Firenze. È il momento di essere ottimisti. Io dico che segnerà un ex, sta a capire quale. Certo. Sì, ok, ecco. Abbiamo capito. Va bene. Dillo, no? Cioè, Cassano. Cassano, ovviamente. Certo. Francesco, dici, e qui stiamo parlando di Milan in questo caso. Vai, Francesco. Beh, io esagero citando dal passato recente. Secondo me segna Bartelli sotto la Nord su rigore. Quindi un altro ex in questo caso. Non conviene scappare poi, però. Ecco, allora facciamo una cosa. Adesso parliamo, dobbiamo parlarne con voi due. Se non ne parliamo con voi due, con chi ne parliamo? Allora, quanto sei goduto, Francesco, milanista, per Balotelli della tua squadra? Beh, tantissimo. Sicuramente l'amore di Balotelli per il Milan era noto. Sì. L'affare, più che per il ragazzo, per il dispiacere all'Inter, dimostra la serietà di un progetto su cui anche i tifosi più fiduciosi avranno avuto qualche dubbio. Questo progetto giovane chiama che qualche dubbio, che insomma Devo dirti che io ho goduto anche poi oggi pomeriggio, perché la differenza tra le due squadre al momento la puoi vedere nella doppietta di Livaia, che era il giovane che poteva essere importante dall'altra parte, invece oggi ha fatto due gol, ma a Bergamo, sotto la neve, bellissimo. Sì, fortuna certo. Che era a Bergamo. Come vivi Balotelli dall'altra parte, Fabrizio? Beh, direi una bugia se non dicessi che un po' mi dispiace, però è anche vero che per l'Inter è stato un affare dal punto di vista economico, acquistato tanti anni fa, quando ancora Balotelli non lo conosceva nessuno, per poche lire, venduto per tanti milioni, con noi ha vinto ma non è stato protagonista. Adesso vuole diventare protagonista, ci farà vedere se è capace di essere protagonista. Ma scusa, il concetto di affari, no? Mi sembra che sia un po' nebuloso in questo caso. È un affare per la società, non si sa se poi è un affare per la squadra, perché poi dopo la società ha tanti milioni, ma se poi prende delle bufale. Il discorso è molto semplice: nel momento in cui un giocatore, in una partita importante come quella di Champions League contro il Barcellona, prende la maglia dell'Inter e la sbatte per terra, è un giocatore che ha finito di giocare con l'Inter, per cui per forza di cose l'Inter doveva cederlo e l'ha ceduto alla squadra che offriva di più e ha fatto un sacco di soldi. Da quel momento la storia di Balotelli con l'Inter è finita, ne è iniziata un'altra che sembra iniziata molto bene. Balotelli a questi livelli non si era mai visto, lo temiamo, lo rispettiamo, ma non abbiamo paura. Velocissimo però, Stramaccioni. Ramazzoni, non so se ha le idee chiare, perché stamattina, se avete comprato o letto i quotidiani sportivi, ci sono tre diverse formazioni dell'Inter, ancora non si capisce come voglia schierarsi stasera. Io spero e mi auguro che voglia impostare una partita non di attesa, cioè per una volta quest'anno mi piacerebbe vedere un Inter che propone gioco invece che subire. Ma Strama lo vuoi cambiare o no? Assolutamente no, il progetto è iniziato con lui e si finisce con lui a prescindere dai risultati. Francesco, è bastata una settimana, beh, di colpo Allegri prima non capiva niente di calcio e adesso di colpo è l'unico che è riuscito a battere e umiliare il Barcellona. Beh sì, la vittoria più bella per Allegri è sicuramente quella di aver conquistato il tifoso più difficile. Sì. Berlusconi ieri gli ha promesso di nuovo, se non a qualunque cifra, comunque a cifre importanti, anche di fronte a una concorrenza agguerrita. Vedremo se le parole del presidente avranno davvero un seguito sul mercato. Di certo i risultati sono dalla sua e soprattutto sembra l'atteggiamento dei giocatori, perché hanno seguito contro il Barcellona il piano tattico dell'allenatore a perfezione. E i risultati sono arrivati. Ti dico la mia, posso dirti, Francesco, la mia sensazione di Allegri e la squadra? Secondo me ci si diverte tantissimo. La sensazione è che si può vincere, per esempio, anche la Juventus che vince, però sono tutti molto un po' così, un po' tristi. Un po'... Ma sì, ma sai il concetto Avere tanti ventenni in squadra sicuramente dà serenità, gioia. Sì, non è che dall'altra parte. Sì, ma non è che la Juventus è stata una squadra della terza età, no? Cioè, voglio dire, alla fine. È un concetto diverso. Li potete vedere le creste che si occupano. Ma lui è l'interista. È milanista. Fabrizio, sei tu che stai parlando? No, era Francesco. Ecco. No, perché la sensazione con Allegri è questo, cioè nel senso che è come se fosse una situazione tipo siamo all'oratorio, no? E ci si allena con il vice, perché il parroco è un po' più severo, no? C'è questa cosa qui, no? E qui c'è il vice, con il vice si fa un po' di tutto, si tira alla viva il parroco, si dicono parolacce, si dicono tutte queste cose, queste robe qua. Ecco un po' la sensazione, siamo tutti giovani, siamo tutti amici, tutte queste cose qui. Poi prima o poi arriverà un allenatore vero. La sensazione è un po' questa. Però nel frattempo avete risultati. Sì, i risultati sono, ma perché secondo me si è realizzata un Milan in questa stagione una situazione probabilmente mai vista nel campionato italiano, in una società soprattutto di alto livello, quella di non avere obiettivi particolari, esigenze di risultato. Si è partiti con molta umiltà, anche abbastanza, vediamo come va. Probabilmente Allegri all'inizio era visto come un capo espiatorio di, in caso di fallimento, vabbè, con i giovani è stata colpa di Allegri, vedremo chi prende l'anno prossimo. La situazione è girata fortunatamente dal lato giusto per l'allenatore, per la società e per il progetto, quindi io non sono totalmente convinto che Allegri a fine anno o a fine contratto andrà via. Secondo me sta iniziando davvero a conquistare anche il presidente, che comunque al di là delle parole di ieri ha ancora dei dubbi, ancora i suoi pallini comunque. Grazie a tutti voi, ovviamente a risentirci. Vinca, come si diceva, il migliore una volta, oppure perda il peggiore. No, nel derby deve vincere il peggiore, possibilmente con il gol irregolare al 90esimo. Grazie, a ciao. Risentirci. Ciao. Dobbiamo andare via velocemente, dobbiamo ringraziare Fabio Cantadori e Pietro Lacorte, ringraziamo anche Giorgio De Luca che ci ha assistito al programma e Luca Cancellara che è stato in redazione, grazie, questo è Dai Vai, non è solo calcio, grazie ovviamente a Sergio Ferentino e a Luca Gattuso. Ci risentiamo alle 22.